che sia della Falcos. Sento silenzio in radio. Lui, scoppiare un petardo di fronte, dice Salvatore, ma che cosa mi sta dicendo? Un osmetro della Falcos vuoi utilizzare per fare questo lavoro? È il migliore portiere della Falcos, di gran lunga. Questo pezzo di antiquariato che io con molto orgoglio comprai un 22 anni fa, e che chiaramente non capendone più di tanto, comunque a quello mi ero affidato nelle varie situazioni in cui mi sono trovato per smettere le antenne. Senza fare mai indagini su internet e quant'altro, anche perché all'epoca non ce l'avevo la connessione internet, per rendermi conto esattamente il mercato che cosa offriva, quali erano le apparecchiature, quali erano i pregi e anche la qualità dei vari Rosmet che erano in commercio. È evidente che lo faccio adesso, faccio una ricerca per parola chiave, molto probabilmente neanche Google mi dà una risposta. Penso che gli antiquariati tutto quello, ma non erano manco eccezionali, sono quelli che erano tenuto con cerchietto sopra per caso. È una sorta di scatoletta, di sembra una scatola di sigari, con le due manopole, un paio di levette per le parature, e poi c'era di lato una cosa curiosissima che era una sorta di boccoletta con un buchetto per un innesto di un antennino di una decina di centimetri che sarebbe dovuto servire come misuratore di campo, che mai nessuno è riuscito a capire come funzionasse, e penso neanche i tecnici della Falcos, che secondo me era un pezzo di metallo che avevano bisogno di sbolognare e avevano fatto questa crocco. Ma quello funziona, se funziona, se la cosa funziona, tu quello lì puoi provare la misurazione di campo senza utilizzare le fili. Puoi metterlo sulla macchina, sul tettuccio della macchina, e ti misura, ti fa la misurazione del campo. E vabbè, ho fatto dopo il discorso di stanotte verso un eventuale acquisto di un ROS, di un accordatore serio, diciamo, dai. Su internet invece ce ne sono mille di accordature, però è a parte, non c'è l'orometro esatto, ma c'è, se c'è uno che c'è l'orometro esatto, ma c'è l'orometro, se c'è la faglia della Zantagia, la KP1000. KP1000? Ma 50 euro. Ma non su eBay. Su eBay? No, su eBay non compro nulla. E quello lì non è certo a prima mano, sarà a seconda mano sicuramente. Vabbè, no, preferisco, dopo tutte le scopole che ho anche sentito stasera, per una spesa del genere preferisco prendermelo nuovo. Ma lo trovi, un altro fatto, un altro fatto, non ne fanno più di quelli lì. Capimile io, ce l'ho, va benissimo, accorda e tutto qua. Ho capito, ma l'hai comprato su eBay tu? No. A me me l'ha venduto Natalino, non so se l'ha sentito, è un vecchio CB che adesso sta rientrando, dove deve piazzare tutto in macchina, perché a casa è impossibile a piazzare. E niente, me l'ha venduto lui, ma tantissimo tempo fa, ti parlo di 8-10 anni, e sta sempre andando. L'ho preso a seconda mano, era nuovo, solo che l'ho detto di fare il coperchio verde, e siccome io sono molto pignolo, cioè tutti i coperchi veri degli apparecchi, degli strumenti, allora lo smontai e lo verniciai con la vernice nera. Lo feci come gli altri strumenti, è uguale. 3K, ma se tu mi vuoi vendere il tuo? No, il mio è stato vero da stazione, è illuminato, è tutto bello, non è... c'è gli strumenti grandissimi prima di tutto, e poi illuminati, capito? Strumenti molto grandi, sembra tipo televisore. Ho capito. E comunque vabbè, è una cosa che è un passo che dovrò fare. Adesso prima devo mandare giù la documentazione, mi tolgo intanto quel pensiero e poi vedremo da qui alla fine dell'anno cosa passerà il convento e di conseguenza di quanto potremo disporre. Ne abbiamo speso di ben milioncini, se avessi avuto tutti i soldi che ho speso l'apparecchiatura sarei stato, non dico ricco, ma avrei avuto un bel gruzzo. Ehi, papà, non mi va di far prendere dalle grandi spese. No, e poi comunque il discorso è che comunque passi uno per volta e la prima cosa che mi preme adesso è essere in regola, capito? Essere in regola, quella è una cosa che voglio assolutamente prima di tutto. E se tutto va bene spero che per il prossimo mese abbia tutte le autorizzazioni necessarie, perché bisogna considerare compatibilmente, si dice così, compatibilmente con il lavoro che devono ancora fare giù a Cagliari. Ma che cosa la città di fare? Marco? Avanti Sandro, buonasera. Cazzo, buonasera. Ciao Gianni. E Gianni, come si incontrava? Mi doveva sposare un amico, ma non ricordo più il nome antico. Cazzo, non ti preoccupare, oramai me l'avrei detto 40 volte, Salvatore da questa parte, c'è anche Giuseppe Leoncino. Ok, scusami Salvatore, però diciamo non è merito, ecco, buonasera anche Salvatore, e saluto Leoncino, e ritorno Antenna. Buonasera. Ciao Luca, ciao Falche, in compagnia di Sandro, Gianni e Giuseppe. Tu mangia il riso. Poi buonasera a tutta la giostra. Salvato me, sono in Cina, no? Certo, c'è Luca. Ok, ciao Luca, buonasera. E saluto a Franchetto. Ok, vai. Ciao Sandrino, vai. Ciao Salvatore. Ciao Gianno De Berlù, ciao Luca. E poi non so chi sia altro, vai. Saluto a tutta la rotella. Buonasera a tutti, ciao Sandro. Avanti. Giuseppe, riprendi. Eia, buonasera Luca, ciao Sandro e ciao Antonio Falchetto. Di Munio, che fine hai fatto? Non ti sei più sentito Antonio, D'accordo? Tu di cui? Mettami qui la roba. Ma tu non lo fai di prima, non si va di più in via. Dove? Ok. Ciao Luca. Luca, ma dimmi, ascolta, ma purtroppo non ti è arrivato con Celestino, ma il tuo cuore l'ha recuperato. Purtroppo non ti è arrivato Celestino. Su Facebook ho visto la fotografia di Celestino. Magari, no, magari. Un sogno una volta, magari. No, l'ho preso da internet, se non mi piace troppo lo switcher. Magari sono troppi soldi, cavolo, troppo. Non mi sembra. Sembra quello. Ho fatto bordone di 500 euro, vuoi. No. Poi non c'è un negozio. Ecco, hai fatto visto, ho visto, ho fatto di questo mio spino. Ecco, cosa chiara, è possibile chiara, lo so, ricorrete un attimino, indietro con i tempi, mi è stato ricordato ottobre la mattina, ma come mi dire che Luca Agostino. Vai, no, no. Vediamo, pochi spiccioli, la metà la posso non la prendo, ma la seduta nuova, l'altro amico c'è la carrozziera, ho fatto un motore nuovo, se la trovo pochi soldi la prendo, cioè tipo adesso 200, 300 euro la prendo, poi se ne vorranno altri 700, 800 sopra, ma me la tengo, adesso vediamo, cerco, se la trovo bene, se la fate. A 200 euro bisogna proprio che sia in brutte condizioni e proprio che qualcuno se ne dissi e ormai come sono, come dire, pezzi abituato, va bene. Ma bene, prima facciamo Gennaro. Sono tuoi, avanti. Andrea, abbassa un po' la rete che si è strappato, so che io credo voi, sempre io tu vieni ancora. Ok. Ok, no, no, no, perché devi essere pure di cogioni, anzi, soprattutto che è un po' freddo, quindi questa c'è una per abitudine, capito? Non sei per niente pure di cogioni. Ecco, però è per far più cinemiglia, dai. Adesso magari aspettiamo un riscaldo un po' e vediamo se cambia la radio, perché così un po' sta strappando, per me, per lo meno ti ascolto così in questo apparato, non so gli altri. Ok, quindi un attimino, vai, Salvatore, come ascolti? Lo stavo per dire io, però siccome è successo anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, dopo che la tua radio ha iniziato a scaldare e avevi abbassato un pelino, ti sentivamo bene, quindi credo che quello che ha detto Gianni si avvererà poi. Non è neanche un difetto, diciamo, di questa radio, è così, devo scaldare una volta che raggiunge, diciamo, la sua temperatura, che riscalda, allora, diciamo, che si mette un po' in linea. Va bene, ora lancio a te, vediamo come mi stai ascoltando, se no devo passare ancora, vai. Ora va bene, va bene. Ho fatto una cosa, sa, la capita sugli elicotteri. Non ho capito, dottor, ma c'è? Ho detto, scusa, ho notato che da quanto ho visto ti piacciono gli elicotteri. Una vecchia storia. L'elicottero, diciamo che è una vecchia storia del passato, diciamo. Una vecchia storia? È una vecchia storia del passato. Cioè, sarebbe? Sarebbe che da militare, stavo frequentando un corso da elicotterista, poi si è un po' rovesciata la situazione e quindi questa passione mi è sempre rimasta aperta, diciamo, qualche domandino che ho, quindi sempre l'avevo visto su Facebook e l'ho appiccicato lì. Ecco, solo a quest'ora ho visto un pilota di elicotteri, musica. Sai, ognuno diciamo nella vita ha le sue passioni, le sue punti di riferimento da poter raggiungere, però purtroppo veramente non è così, veramente o per i punti o per una cosa o per l'altra, non è così. Vabbè Luca, tu vuoi essere di culo? Sono un bambino, facciamo troppo. Piacciono troppo, guardano sta cosa in alto che vola. Se mi dice aereo non mi attira. Ma so, per esempio, una volta sono andato due volte, però se non mi ricordo, lì a Patrona per vedere questi leggeri, ma non mi attirano. Poi c'era quattro di trotto, erano due di piccolini a due posti, no? Io stavo parlando tipo, grazie, ha parlato, ha detto, ma fatta un giretto, guarda, mi porti 10 litri di benzina e ti faccio un giro. 10 litri? Per carità. Comunque erano 50 euro al giro, ho sentito io sull'ultimo leggero, 50 euro al giro, ce l'ho io un giorno, ho detto a questo qui, quanto ho detto per 50 euro? Questo ho preso la moglie, sono saliti sopra, che ha fatto il giro, 50 euro a testa. Comunque Luca, te ne dico un'altra, ho venduto il mio e ho ordinato l'altro. Che cosa? Io ti ho detto che c'era molto il motore da di dietro, l'ho venuto a un collega perché il suo si è frabbinato, ce l'aveva uguale e c'aveva il motorino di dietro, tutto quanto, mentre se me lo vedi 30 euro te lo prendo. Te l'ho venduto, mi sono preso quello delle carabinieri. Ovviamente dai. Appa. Parla come lo vorrei già, vediamo come fa cosa. Bene, va bene. Appa, appa. Avanti. Oh. Salvatore, riprendi, non so se mi ascolti, va. Stai mangiando un impazzo. Per dare il rosso ai carabinieri. Lo so, no, parlavo dalle foto di un ragazzo che conosco, no? Caldo, che ho belle orate, mitica, belle. Tipo che ho preso io qualche anno fa. Belle bestie qua in foto. Guarda, amicizia, vediamo se mi aggiunge. Ripeto, io continuo a mangiare. Comunque, la cosa più strana che ho visto su internet di questo qua, adesso che c'era un modellino di ricotta, era bravissimo guidando, si è attaccato il pezzo di verza con l'ano e con l'esca, lo faceva scendere nel fiume, lo faceva andare a perdere l'acqua e poi lo tirava su, lo faceva scendere e salire, e a un certo punto ha pescato il pesce. Addirittura, cioè questo era, diciamo, tipo sfizio, diciamo, dai. E giuro, l'ho visto filmato su YouTube, l'ho visto filmato, se non la bocca aperta, ma non era grossissimo, il pesce era normale, come il pesce normale, sa stato 400 grammi, però l'ha tirato su e se l'ha riportato in vivo, l'ha capito tutto con l'elicottero, cazzo, non è allucinato. Diciamo che sarebbe il massimo andare a partire con l'elicottero con la canna da pesca, vai, sarebbe, ma sì, vabbè, non c'è bambina di grassi, non c'è bambina di grassi di niente, oggi diciamo, furbi c'è un ospizio, furbi di fare un'altra cosa di nuovo, si raggiunge qualsiasi cosa, vai, ma pazzesco, Questo altro che era tipo cane, prendeva l'acqua dal fiume e poi la buttava. Allucinante, era vero, come ricordo. Quello lì poi era a motore di quella scoppia. No, vabbè, sono fatto di quelli piccoli, diciamo, quelli tipo l'autista, diciamo, non hanno elicotteri seri, ma se andiamo a vedere elicotteri seri, ce la mettersi le mani in testa, ma guarda, ho avuto sempre questa passione, allora io circa un po' di anni fa, ma dietro, sono 6 o 7 anni fa, siccome io ho un cugino che è nella marina, lui è elicotterista in marina, si trova via Livorno, sono andato a Treverno, sono andato a Treverno perché logicamente il giro di elicottero non me l'ha fatto fare, logicamente, ma quando sono andato a Treverno che lui si è presentato in divisa. Il diviso, diciamo, lo statuto, diciamo, che usa l'elicotterista, mi è venuto la febbre. Qualche volta mi invia qualche video, qualche foto, diciamo, loro fanno molte esercitazioni, quello a Bocca Cava, che stava facendo un trasferimento dalla radio a terra di mezzi pesanti, diciamo, tipo camion, carrarmenti, ma dice che sono in credito, no? Io mi sono elicottero dell'esercito mettendo una statua enorme sulla punta di una montagna, era l'unico modo di metterla. Prima ho portato questi perni grandissimi, hanno fatto dei buchi, hanno rifiato questi perni, hanno messo il cemento, dopodiché ho portato questa statua e ce l'ha fatta praticamente a infilarla, c'erano i buchi in questa statua dove andavo a infilare i perni, no? Ce l'ha fatta a centrare i perni e abbassarlo tutto al centro dei perni, te li immagini? Sì, ma lei logicamente è bravura diciamo dell'operatore, logicamente. Ma adesso l'altro giorno su a Milano sta nascendo un grattacielo più alto di terra, di 230 passa metri, infatti si è visto l'elicottero che stava trasportando, diciamo, lo stazzetto, un pezzo di terra, adesso non so se sia, che cosa sia lo stazzetto, ma adesso per dire in basta, in montagna, in zone di montagna lavorano molti con elicotteri per trasporto, diciamo, adesso per trasporto di cose, diciamo, in punti disagiati lavorano molto con gli elicotteri. Va bene, ok. Era un Cristo enorme questo che hanno posizionato sulla punta della montagna, un Cristo enorme che praticamente hanno messo proprio in punta della montagna, allucinante va. Penso che a piedi non si possa raggiungere quella vetta lì, non penso che si possa raggiungere, a meno che scaliche. E altri voli, il cielo dell'elicottero si può andare. Vabbè, comunque sospesa nell'aria, ha fatto un bel pezzo. Infatti io ho toccato questa cosa, si ricaggi, tanta aria che lui non potrà di legge. Non è così semplice, guarda, portare un elicottero, addirittura mio cugino mi dice sempre che portare un elicottero è molto più complicato che fare un pilota di un aereo, perché un elicottero diciamo che è molto, molto più sensibile diciamo quando c'è vento, quando c'è troppo vento, e quindi è molto più difficoltoso. Vabbè, a parte diciamo gli elicotteri diciamo di nuova generazione, diciamo che sono abbastanza all'avanguardia, quindi non è che diciamo non è come un aereo, è molto più diverso. Facciamo girare che c'è gente in parcheggio qua, Salvatore. Ok, vi ascolto con piacere, che sto leggendo delle istruzioni e mi sto documentando su una certa cosa. Riprendete pure voi, vi seguo con piacere. Guarda, a me mi ha sempre appassionato l'elicottero, molto più dell'aereo, a voglia. L'aereo non tanto, ma io guarda che l'aereo sono salito sui canali, sono salito sui da guerra, insomma li ho girati tutti, perché ti spiego, abbiamo fatto a Urbia, abbiamo fatto un ritrovo proprio del volontariato, diciamo della protezione civile, eccetera eccetera, c'era associazioni di tutto il mondo, c'era Spagna, c'era Francia, c'era Italia, e c'eravamo anche noi che facevamo il nostro numero, dovevamo fare delle esibizioni. Praticamente lì c'erano tutti gli aerei parcheggiati dell'esercito, c'erano tutti i militanti in cinghia, eccetera eccetera, e gli aerei che ci hanno fatto salire sopra, il tornare, io sono sempre sul tornare, sul trasformazione, mi sono seduto, ci facevamo fare tutto, un bel grande, un bel bello. Una strumentazione che non si rompe nulla, ci saranno mille strumenti. La strumentazione è, diciamo che è il cuore, diciamo, di tutto il messo insieme. La minima vantarina, il minimo parametro di misurazione, diciamo, delle varie strumentazioni e così via, come diciamo, hanno un'importanza non indifferente, quindi lì devi tenere sott'occhio diciamo, qualsiasi movimento, qualsiasi funzionamento, diciamo, di tutto che messo insieme, capito? Ti misura il vento, ti misura l'altezza, ti misura l'inclinazione, ti misura il consumo, ti misura qualsiasi cosa, quindi tutto dovrà essere, diciamo, un ordine, diciamo, del funzionamento, diciamo, in cui ti trovi. Logicamente non è come una macchina, che la macchina si atterra, ti succede un'anomalia, ti succede qualcosa, se ci ferma, diciamo, ma le chiamano ti fermi. Detto si è sospeso nell'aria, quindi la strumentazione è molto, molto, molto, molto importante. Configurati che dopo adesso non mi ricordo, se 1200 o 1600 euro di volo c'è una revisione totale dell'elicottero, ma non soltanto della strumentazione della parte motore, ma anche diciamo sulla parte dell'elica, le carene, tutto messo insieme. Ma è giusto che sia così, però se in aria poi se da male qualcosa può succedere lo stesso, anche se fare le revisioni può succedere lo stesso, ma sempre meno che quando fa le revisioni. E logicamente chi fa le revisioni già sono degli ingegneri con la tavola quadrata, logicamente. Non è diciamo uno scrovuto. Ci sei? Perché una volta che sono seduto, se ne ricordo, sono salito su quello dei vigili del fuoco, che avevano fatto un incidente nel Palestintino, e sono salito io e un altro mio collega, e l'altro mio collega è andato con l'ambulanza e con un altro mio collega. Insomma, noi siamo saliti sull'elicottero, loro con l'ambulanza hanno portato i feriti meno gravi, noi con i più gravi con l'elicottero. Sì, no, l'elicotterista, diciamo, del vigile del fuoco c'è un carissimo amico che abita nella zona, non so se è presente la zona di Lavorizia, se è fatto che saprà dove si trova. Pida Giuseppe, che ha messo parecchi anni, lui stesso è iniziato da giovane, ha preso un progetto, sempre elicotterista. Non è nuovo, io guarda, del vigile del fuoco ho fatto un incidente di un elicotterista proprio del vigile del fuoco. È presente il ponte che hanno fatto prendere la veloce da Città del Catto lì. Questa macchina, questo T50 è scesa sparata, è andata a cortare contro di loro e poi è rimasta sospesa sul guardrail dove c'è il ponte, che c'è la foglia che passa sotto. È rimasta in bilico, infatti abbiamo chiamato subito Land Rover, che allora come Land Rover non c'erano Mitsubishi, e l'abbiamo praticamente tenuta con Land Rover perché era sbilanciata verso avanti, l'abbiamo attaccato il vericello e l'abbiamo tenuta bilanciata di modo che potessimo togliere i feriti che c'erano dentro, tutti cotti, le bottiglie di whisky bevute dentro. Niente, praticamente sono arrivati i vigili del fuoco e hanno dovuto tagliare la capota per togliere i fuori. Allora, diciamo loro. Loro diciamo sono appena impatto sugli incidenti, diciamo incendi, logicamente loro sono appena impatto. Va bene, io mi saluto, va bene, ho già chiamato per far carica. Ma il salutone circolare se coincido più tardi, vai. Che andiamo a fare qualcosina di carica. Ok. Dai, buona carica, ci sentiamo magari più tardi, avanti. Niente, ma lui è qua vicino a casa mia, diciamo a mia, con la tua amica mi fa una ricorderista nel vicino del fuoco. Sarà quello che ho preso io con l'ambulanza, quell'incidente. C'avevo una passa allora, per sicuri sono tirati alla macchina, ma magari lui non si è fatto molto male, frontalmente sono sbattuti e poi sono andato a finire sopra la guardia. Si è fatto male un po' alla fronte, ma non voleva andare a pronto soccorso. Ho detto, guarda che ti sta facendo un punto nero, probabilmente c'è un ematoma, è meglio che ti fai vedere. No, non dice, non c'è problema, non ci voleva andare. Vabbè, per carità, ma forse è lui, non lo faccio già, non lo so, come sta lì via, come sta lì vicino alla barbiera, più o meno. Vabbè Alessandro, buona cena, a più tardi e se no alla prossima, ciao, avanti, che è rimasto già, vai. Guarda, un'uncina, avanti, e poi c'è Salvatore e via dicendo, avanti, c'è anche il Falchetto, facciamo girare l'uncino, ripeti tu, puoi far girare, l'uncino non risponde, Falchetto non c'è, chi è rimasto ancora, Salvatore? Ehi, vi sto ascoltando, ciao Lu, ben rientrato. Sto documentandomi su una cosa e quindi vi ascolto, dai. Dialogate pure. Vi seguo con falsa attenzione. Ma non vorrei studiare, ma vorrei più per rilassarti un po', c'è il tuo giorno della furia, per studiarti le cose. Non fare un attimino di tempo quando c'è il momento di tempo libero, va. Rilassati adesso. Guarda, hai anche ragione. Però porca miseria, sono già 5 giorni con questo che sto cercando di fare questa operazione maledetta di installazione di una cosa che voglio provare a tutti i costi, e adesso sto cercando di capire esattamente che cosa devo settare, perché non funziona, ho fatto già tentativi, poi ogni tentativo mi porta via 40 minuti di tempo, però voglio provare, cioè se ne faccio altri 2 di tentativi e poi basta. Dai, vi seguo già, scusatemi se non entro con regolarità, però voglio provare a portare avanti questo studio qui. Capitolo 7, problemi e rimedi utili. Proviamo a leggere questo, dai. vi seguo già. Riprendi Luca. Avevo capito un'altra cosa, sono andato a testarlo. Avanti. Aspetta. Un cavolo. C'era come un audio qua. Come sono multe. Ma qua non mi ha salvato. Ah, c'è stata una richiesta di 7 anni, no, o quando mai al computer si è messo su Facebook, scrivi a doppietta, ora metta scatta e faccio la vostra ragazza di Apple Dottores. Micidiale qua, micidiale. Allora, però sai che nel nuovo mobile mi sono messo anche il cassetto che fuoriesce per metterci il computer, lo uso anche come scrivania per scrivere qualcosa, ma lo uso anche per il computer, dai, come c'è nel computer il cassettino che si tira fuori. No, ma il mobile? E via. La mossa. La faccio un giugno d'ora. La vedo, a chi giù? Massimiliano. Chi è che ha detto ci giù? Massimiliano. Vabbè, Massimiliano. Da Bush. E io, buonasera a tutti. Massimiliano Archimede. Risolti i problemi tu, Ce l'ho fatta stavolta. Ho capito, Massimiliano. Ripeti, sono? È hai sentito i problemi della radio? Quali problemi? Quindi l'altro giorno mi stavo chiedendo contro lui che mi dava problemi in accensione e poi anche in trasmissione. Stai usando? Come? Ho detto, questa che stai usando? Via. L'ho riparata, diciamo, ma ce l'ho messa a posto. Vabbè, tutto cambiare la scheda e alcune cosettine che saranno problemi. Questa è sempre quella famosa, quella che avevo sistemato sin dall'inizio, quella che usciva tutta male, ti ricordi, qualche secolo fa. Quella che aveva bruciato tutti i colpi e chi strani. No, quella la trovi venduta. No, chi è che la vuole? Pomponio, mi pare, però non si è mai fatto avanti e ho lasciato stare, me la sono tenuta, infatti, è servito. No, adesso, i coperchi sono originali perché quando l'avevo presa c'erano i coperchi verniciati a bomboletta, a spray nero. Poi mi era fatto fare la vernice apposita, però me l'avevano pagato invece di dare un po' sul verde, dava sull'azzurrino, però era quasi uguale, però invece di dare l'effetto sul verdognolo, come dovrebbe essere, dava sull'azzurrino. Poi ne avevo preso un'altra così come pezzi di ricambio, perché si era bruciata la CPU, questa qua, e da lì avevo ricavato i coperchi, poi ho recuperato i filtri e l'accordatore. Infatti oggi poi ho dovuto cambiare la scheda di VCO, la IF, questa che stanno meglio. Insomma, non dà più problemi, perché praticamente ma andava a accenderla, ci voleva tre quarti d'ora prima che si accendesse. Poi quando andava in trasmissione la potenza non veniva erogata in modo corretto, e poi in ricezione si andava in auto-oscillazione e si andava più infatti in su. E invece adesso è di nuovo in ordine, a posto. Adesso la facciamo andare, ho fatto anche la modifica per la ventola, perché queste radio hanno il vizio di entrare intorno agli 80 gradi e lì i finali sono già belli tessurati. Invece adesso entra intorno ai 45 gradi, 50 gradi, che è più ammissibile per i finali, almeno non li scalda troppo. A te, Luca, fai girare. No, va bene. Ma ripeto, io se non mi ricordo male, Claudio aveva detto che l'avevi venduta. Aveva detto una bugia, se non mi ricordo. Infatti gliel'avevo detto per vedere un po' com'era, se l'aveva messa a posto tutto quanto. Vabbè, dai, io mi assento 10 minuti perché devo andare a mangiare il pitbull. Questa qua era quella famosa, ti ricordi quando l'avvocato la prima volta tu mi aveva il controllo che non si capiva niente, era stata storta, sempre lì. Mi sa che me la terrò a ricordo. Ci fossimo a mangiare, Luca. Happy and Beautiful, a luna voleva mangiare. A lungione. Aia. Perché lì ne ha bisogno di mangiare? Mi sono fatto un'insalatona, mega insalatona. Immagino che se c'era il salvatore il giorno di pilastro. Salvatore? Sì, che fa il nome, però? Vabbè, è una cosa scherzosa. E vabbè, ci siamo divertiti più o meno quel giorno, si avvicinano. Ah, tu sei, guarda, figlio di buona mamma. Vedi, mi ha fatto dei gnocchi. Ma Similiano, hai mai visto uno che scongela il pane con il phon? Con il phon. E se non sono crepato, diceva, non crepo più. C'è un vita a cena, c'era il pane in freezer, cazzo, tutto il fuoco pensavo dove, perché mi ha detto che va lavato il cane, no? Pensavo dovesse asciugare il cane, a un certo punto l'ho visto con i panini scaldando, il cazzo che cammina, a Giovanni non mi rimaneggia. Beh, non l'ho mai vista questa qua del fondo. Ah, no, vabbè, scaricato il pane callo callo, no? Poi è bravissimo cucinando, già proprio questi funghi porcini appena raccolti e cose, era la fine del mondo, è vero, erano buonissimi. Cappa cappa. Cappa di Roger, mamma. Così grazie a lui, sì. Troppo in gamba però, persona, ma troppo in gamba, ci ha fatto crepare. Poi ci ha detto che c'è che Pitbull, e ha detto che cane è un beautiful. Allora, ma ecco, non mi ricordo come si chiamava in radio, che c'aveva la, così, la brava azzurra, blu, lavorava con le cuscine. No, non c'è più, ma c'è, si modulava anche la moglie. Ah, Franco, no, sì, viene ogni tanto. Bravo, Franco, Franco. Vabbè che io ho ripreso l'altro ieri. Cioè, c'è sempre che mi capita di passare con la via e vedo sempre l'antenna, perciò suppongo che faccia ancora attività. Sì. E allora invece per un periodo non stavo entrando, poi ha ripreso. Sì, c'era anche l'altro giorno. C'era proprio qualche cosa, ci abbiamo preso un caffè insieme, quando è due domeniche fa. Ho capito. Vabbè, se poi Natalino c'è sempre. Natalino si è sposato, adesso abita a casa della moglie. E in campagna ha mollato un po', però ha detto che lo rimette in casa, e bravo, lo rimette in macchina, perché in casa lui abita a Sassa di Vecchio, quindi ci sono quelle case che ha ritenuto tutti messi male e cose, non fa attaccare l'antenna. Ho capito, perché l'ho visto da poco e ho visto che non c'aveva più l'antenna della 27, ma c'aveva un'antenna più piccolina, che non è per la 27. Ha detto, evidentemente ha cambiato spiaggia. E il VHF c'aveva per il Civitone, dai, ma adesso ha detto che la top ci ha messo quella della 27 di nuovo, ma ha detto a me quando io ho mantenuto, ma l'ho tolta perché sta anche lavorando, adesso tranquillo, sta facendo l'autista di scuola, bus è stato fisso, quindi adesso tranquillo, dai. Mi fa piacere, dai. Insomma, da un bel po' che non ho sentito in radio, non lo vedo neanche. Sono belle notizie queste qua, sono già, va bene. Come sta, stavi già? No, non è qua. Vabbè, c'è stata una buona. Quando in Italia va, fa l'autista di scuola, bus di Pollicino. Ha capito, è una ditta al patatrice del comune. E ha fatto, l'ha trovato sul coso, sull'occasione, si è tenuto in conto, si è tenuto a nulla, ha messo che stava cercando lavoro e l'hanno chiamato. Buono, ma lo sapessi. Ha detto, ma hanno fatto mille promesse, mille cose, nessuno poi mi ha mai dato una risposta, ho fatto una fesseria che l'ho fatto tanto per farla e invece è andata bene. Ci ha provato, è andata bene, meglio così, eh. Ma non ci lavora, mannaggia, è lavoro quello che è. Poi infatti sto pensando, non termino io il casotto, vabbè qua già andiamo, ma comunque. Vediamo un po' dove va. C'è un problema lavoro, non so, facciamo come fatto fuori di già. Piccione, non diceva a disposizione deve stare, perché guida sia di scuola bus che anche il Pollicino, quello che porta la gente in città, e quindi hanno gli appalti di tutto questa azienda qua, dice che c'è già da un po' di anni, quindi è anche una cosa quasi fissa, cioè a lui l'hanno preso fisso, però la cooperativa c'è già da un po'. Però è interessante, dico. Interessante, per il momento che sento lavorare già, e ho trovato la gente di fiducia, soprattutto gente di fiducia sono fini. E l'ho trovato quando è domenica al quadrato, gli ho chiesto, ma è stato andando bene, è già una settimana che è entrato, sento, sì, va tutto bene, il lavoro oramai ho già capito tutto quello che devo fare, tranquillo. Ho detto che va bene. Già, scusa? Alleluia. Vabbè, mi conviene, penso di sì, no? Beh, ma gli danno anche il rimborso da Giulio, mi danno 350 euro al mese di rimborso da Giulio. E allora è fatta, quello che ti volevo dire. È quello, va bene, va bene. Praticamente ti dai i buoni per mettersi da Giulio, capito? Quindi da Giulio non ne paga. La macchina invece ha altri consumi, comunque è già una cosa buona quella. Vabbè, se fa lavorare, va. Vai Massimo e poi Emiliano. Ehi. Stiamo cercando una cosa, mi ha fatto venire l'appetito Salvatore di cena. Stavo cercando una soluzione per trovare. Ma con gli asini l'hai trovato, Salvatore? No, con Torrent. Ah, ho capito. Poi se non lo trovo. Io nel mentre mi sono fatto un piccolo NAS della FUNAP, si riconosce la versione PS con processore 486, 4 dischi per un totale di 8 tera e i servizi di destra. Sì, l'ho preso a gennaio. Quello che mi ha fatto più dannare di tutti è stata l'installazione di Roundcube per il server mail interno, ma dannare. Che versione c'ha? Io ho il 439. Non lo so, come firmware o come QNAP? Come macchina, come QNAP? Non so, non mi ricordo. È quello con i 4 hard disk per 8 tera, ma credo che sia come il tuo. Sì, ce l'ho anch'io con 4 hard disk, però cos'è? La versione col processore x86 o con la versione del processore, vabbè, per la farm, il processore ARM? Non lo so, una volta che ho installato il tutto, eccetera, eccetera, oramai sono passati 10 mesi e non ricordo. E tra l'altro ci siamo dovuti arrivare a questa storia perché l'hard disk dirette che utilizzavamo come condivisione dei dati ci ha mollato il punto in bianco, abbiamo perso qualcosa come 500 giga di dati e un danno pazzesco, anche ho detto alzo, fermi tutti, il prossimo che prendiamo una cosa prestazionale e tra l'altro per evitare di farlo andare 24 ore su 24 l'ho temporizzato, per cui si spegne la sera alle 8, riparte la mattina alle 7 e il sabato e la domenica è spento. Vabbè, io ormai è acceso, però gli hard disk poi fanno il stand-by, se non mi lo usano. C'è giusto l'hard disk dove c'ha la versione di asini, che quello va più da sé. Però va. Quindi ho già cambiato il treno, che ero partito con quello più piccolo, fino ad arrivare a questo qua, che è un x86. Da una CPU Intel. Va abbastanza bene, c'è anche l'uscita video, vabbè lo uso per fare il settaggio in console che si copre per non andare in remoto, però va bene, è una bella macchina e si copre, poi c'ho gli esercizi dall'esterno, è anche comodo perché c'ha la visualizzazione per CITIC e VMware, si può giocare con quello lì anche. Vabbè, continuo a cercare che questa cosa qua, l'X2, vediamo se lo trovo. Poi se mi dai 2 secondi, che dopo c'ho il computer acceso, guardo esattamente l'indirizzo dove ho trovato i file, sono 10 da 480 mi sembra, ok, controllo un attimo. Non ho rimbianco, però dai che mi fai il pigiamone. 4 e lui, dimmi. Sì, già, ma tu ti rendi conto, no? Vabbè, giocando, lanciando. Cioè, colore all'asso, questo qua mi ha fatto al river full, allucinante. 400 euro me li ha fatti. Oi, te l'ho detto, se tu te li porti avanti questi asini qui, o tu li tronchi dall'inizio, o altrimenti ti vengono a vedere l'impossibile. Vero, è vero. Cioè, praticamente dici, ma io ho un grizzly di secca adesso, e in terra c'è un due mettate per fare il colore. Vedi, c'è un full adesso. Vediamo un po', io gioco piano, vediamo un po' se qualcuno rilancia. Se non di nuovo un capo in mano, io non fulmino. Ma no, che mi fa colore, vediamo un po'. Vabbè, vai, vai, sono qua. Salvatore. Giù. E allora? E qua, sai che sto cercando una cosa, Giuseppe? Riprendi, che sto facendo una. Provando una cosa per Massimiliano. Figa. Beh, che rimane rotta, io non lo so. Sono io, c'è. Cioè... 9, c'è a vedere. 7, 4, ma sono il mio, di sì, no! Passo il 10 intera, porca. Paletta, dei toppi a cupe li ha fatto qua. Porca paletta, mamma mia. Mi vengono gli attacchi da. Ma che un 9 per prendere. Caro, impedimi quel nome e cognome che devo andare a cercarlo. Aldo Piretta. Andro. Aldo. Ma sta proprio il figlio di buona mamma, va. Sai che vado a prendere il computer, sempre devo entrare su Facebook. Ma ti pensi che ha preso, guarda. Ma va, notte, va, il suo figlio di buona mamma, va. Ma sì, cazzo. Mamma mia. Secondo me è un poker truccato, perché non è impossibile. Cioè, colore all'asso, mi fai full. Come le comi proprio. Un miliardo. Luca. Una cosa, ma questo Piretta, abita per caso alla Teloce? No. No, allora non è quella persona che conosco io. Un ragazzo giovane, bravo pescando, eh. E cacciatore anche. Sono molto molto bravo, ho fatto delle pescate, dici diario. Ci scaglia ha fatto qua. No, non ti accuppia, neanche. Non ho niente. Mamma mia. Ok, l'ho trovato, ma sì. Sì, dimmi. Allora, cerca Embarcadero Rad Studio XE2 Pulsar, che è quello, diciamo, che ha organizzato l'ambaradan e lo splittamento dei file. Ecco, ti viene bene mandarmi una mela? Aspetta, perché l'ho tolto dalla disponibilità dei torrent, e quindi il link non ce l'ho più. Aspetta che cerco un attimo, via. Che prendi tu? Via. Ma ascolta, mi hanno detto che l'asino non conviene usarlo, perché ho troppi virus dietro. Ma è vero o no? Ah, io lo uso regolarmente, non so se dai fondi che prendi. Da tutto a prendere delle fonti fisse, e non prendi niente. Ecco. Ho detto di serate, ma io non uso neanche. Per scaricare un altro programma, io scarico solo musica e basta. Detective vuol dire detective. Mi appare detective su Facebook. Adesso vediamo. Ai 4 miliardi a presa. pratica io, se tu utilizzi il quello che ti ho detto come motore di ricerca, digiti RAD XE2 Pulsar, già dai primi link che ti trova in lista ci sono quelli che, da quale l'ho preso io. Io praticamente alternavo perché ho non ho fatto nessun account, non ho aperto nessun account, utilizzo quelli di WUpload e quelli dell'altro che trovi in lista, solitamente li trovi due o tre. Io vado sempre sul mirror, quindi prima scarico con uno, poi scarico il secondo file dall'altro e così li alterno in modo tale che ho la possibilità di continuare i download, perché se non fai l'account sai che poi devi attendere un bel po' di tempo, no, tra l'uno e l'altro. Ho capito, vabbè, ti ringrazio, Tommy, mi metto alla ricerca. In pratica 10 file da un 200 circa l'uno, 200 qualcosa. Spero sia uscito, ripeti? C'è portante. Importante, mamma mia, il tizio dell'altro giorno, e allora, che pizza. Calendario. Di ieri, vediamo se li fa così, almeno vedo il segnale. Senti, va, sì, hai copiato il messaggio mio di prima. Sì, a posto, grazie. Ok, mi sembra che sia il decimo è il più leggero. Va bene. E tutti quanti i file hanno come suffisso ERSX2PU.part1.rar, part 2, part 3, eccetera eccetera. Comunque li trovi tutti quanti, non puoi sbagliare, è solo questa quella che viene girata tra tutti quanti i vari mirror. ERSX2PU.part1.rar e poi part 2, part 3, eccetera eccetera. Mi ha trovati, però arriva anche a parte 6. Cioè file sonic è entrato e WUpload. Allora, WUpload, però aspetta che ti dico qual è esattamente il sito dove li trovi tutti quanti. Mandami una mail, tanto è sempre la stessa, mmaxx@tisteri.it, così non siamo qua a fare ping pong. Aspetta, no, dimmi, aspetta che prendo la carta che non ho capito la combinazione, aspetta Ma dal tuo sito non lo trovo? Sì, quello è un altro, te lo sto mandando via sms. Sì, qua è su Massi. Ok, te l'ho spedita. Qua sta arrivato. Sì, comunque sono quelli di... li sto prendendo su WUpload e su filesonic.com. Aspetta che ti do l'indirizzo corretto, te lo scrivo tutto. Eia. Lu, se apri lo solito il tuo numero, vero? Ti mando un sms con un indirizzo, che lì trovi tutte le fonti reali, senza problemi. Da lì puoi scaricare tutto quello che vuoi. Io la domanda, se non la mia non c'è problema, la mandi lì. C'è un attimino. Allora, devo controllare. Traduttore, questo qua, il numero traduttore. Ma no, fai tu una domanda. Luca. Se senti a Gianni, mandali, saluto la fanteria, là, io faccio pure il tirare. Ciao, no, ma non ti va, ma è alto, ok, da, corretti da fanteria, ciao ragazzi, un 144 è quando è pronto per domani, dai, ciao. Ciao Giuseppe, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao Giuseppe, ci sentiamo. Ciao Giuseppe, buonanotte. Te lo mandato io, Lì ti puoi registrare, puoi vedere quello che c'è adesso, Te lo puoi registrare, gratuito naturalmente, e funziona benissimo. trovi tutto quello che vuoi. Ma tipo film? Tutto. Detective, cosa vuol dire? In che contesto è? Mi ha cogliato la parola su Facebook. Detective. E ha assunto qualche investigatore privato allora. Detective. Ma come è? È strano però. E sono fatto. Beh, rimasto chi è? Che messo è Luca? Che messo è Luca? Aspetta, forse la... Aspetta. Eccolo qua, sì. No, quello è un indirizzo, hai sicuro indirizzo. E guarda sto quello che c'è. Ok, se non vuoi andare a sapportante. Basta. Arriva basta. Vogliamo non niente da fare. O magari qualcuno conosce di radio, non è detto. Se non vuoi entrare avanti, qualcuno conosce di radio? Io mi stavo guardando il video Modellini. Sai che c'è la scuola di pilotaggio di cotteri? Lo so che esiste. 7, 9, 2, 8 miliardi, 10 miliardi. Tanto ci vuole un gioco la scuola di carte, porca paletta. Ma questo stronzo, non c'ha niente. Mio, non c'ha due assi in mano. Mio, c'ha due assi in mano. Sì. 7, c'è una moto in mano, è uno jet, non è morto, non basta, 38 miliardi, spittina. Ma vaffanculo, va, c'è qualcuno in mano questo scemo, guarda, c'è 50 miliardi a settimo livello, io ne ho. 38 miliardi, non un livello. Questo mi sta ammazzando. Se cerchi questi soldi, faccio un prestito. Ma c'è Cadimini, magari, Massimiliano, magari. Certo, non mi hai fatto una bella cosa, una bella veramente. Allora, sto segnando quel sito, Vabbè, come va? Punto. Punto com. Così. Ma che cosa ho fatto? Mamma mia. Aspetta. Ehi, dimmi. Ti sto mandando direttamente il bitmap. Siccome è inutile che ti scriva il sito, perché tanto quello è un relink a Upload, ti mando il bitmap dove ci sono tutti quanti i nomi dei file. Per cui come tu ti agganci al primo, poi trovi in lista gli altri. Io ti ringrazio. Mio, come parli difficile, Salvato. Claro. Voi. Venite il pacco. Il repack. No, la matriosca a questo punto, perché è un pacco nel pacco. Perché io devo dire la verità, innanzitutto ho salutato gli amici in ruota. E realmente su internet ho sempre fatto affari. Io su 3-4 macchine che ho, a tutt'oggi 3 sono andate alla grande. Lo so. Inviato in questo momento Massimiliano. Ciao Massimiliano, mi ha aperto questo sito, ciao Antonio. Questo sito, a me lo devo fare qua. Cerca, pinti calendario, aiuto chat. Esce il somaro con le ali, ed è un angelo. Registrati. Vabbè, puoi andare a vedere, c'è la sezione... screeners e così via, tutti catalogati sono, così in giù c'è sezione musica, sezione giù, i top, documenti e così via. Lo tengo d'occhio, no? Avanti, il grosso. Visto, la figlia? Figlia? Sì, la sto guardando. Poi come lanci il primo di RAR, una volta finito il download si ricrea l'ISO in una directory e in un'altra directory il crack. Perfetto. Qua c'è una condizione improvvisa, secondo me siamo con che contengono informazioni non appropriate, tipo se fondo sessuale illegale secondo le leggi in vigore, di carattere del periodo, poi faccio qua, cercano commissioni, o devo leggere, cosa devo fare? Allora, l'ho cambiata e ce l'ho stesso con la scritta, che ho scritto, lo scrivo, ciò che c'è scritto, Detective V2, cosa vuol dire? Allora, cosa vuol dire Detective su Facebook? Detective V2. Io allargo da Facebook, quindi non ti so dire. No, ecco. Ho messo il preferito, ma se vedi a cui si vedrà, spittia, non ci credo, la carta è buona, affondata. Ma Gianni? Incantato sono, mi sto guardando un po' di lezione. E qualcuno mi fa anch'io, via... lì su YouTube, più di uno, non so cosa veramente bella, mi piace un sacco. Se lo faccio in casa, se mia moglie per dire grida, perde il controllo, mi verrà bene giù tutto. Se invece sono da solo, sono tranquillo, volo, capito, lo fermo nell'aria, lo faccio ballare, tutto quanto, è diverso. Poi quando sei fuori, un po' l'emozione, cosa non ho voglia di fare, magari ti fa sbagliare. Vabbè, certo, mi sta affetto lì. Adesso vuole il mio, troppo grande quel slittino, se troppo grande se lo giravo io so più se lo acqua un peso in base se lo cuore un gobolo sta 46 euro come il mio vola bene 46 euro e vado in incontro come che ci tocca come hai preso? Ho preso e poi dove c'è il white and green lì dentro dove c'è quelle che sono cinesi dai white and green capito 9 sì ma perché vabbè ma dentro non c'è white and green di fronte e c'è un cancello c'è tre quelle cinesi lì di fronte c'è una cucina che si entra dentro e c'è un cancello e c'è scritto io si vede negozi cinesi dai. Ma bisogna stare un po' attenti questi negozi se non dico appartamento perché li hanno chiuso già. Sai che è un'amica praticante la madre di un commesso che c'è da noi, l'hanno praticamente è andata col marito a fare delle compere, lì dei cinesi stavano quasi per chiudere il marito, si è ricordato che era stata le sigarette, ha detto guarda prendo le sigarette e poi te lo aggiungo. Lei intanto era in negozio, quando è ritornato stavano abbassando le serrande, dice, ah, c'è mia moglie dentro, ma no, è chiuso, non c'è nessuno, non c'è nessuno. A un certo punto questo qui ha successo in sospettita, ha chiamato i carabinieri, il cazzo l'hanno trovato attaggiato, la sratta, tutta legata, una sedia, e la stavano rapendo praticamente. Pari. Beh, da onda. Cazzo, di qua, mamma mia. Faccio una cosa alla mia donna o un familiare mio. Cazzo, guarda, ti dico, c'entravi col cannello, metti una bomba a tracolla con... avevo modificato il cannello a due. Sei entrato, lei tra i qui, tutti bruciati. Meno male che è stato pronto quello lì a chiamare i carabinieri, perché sennò non l'hanno pubblicizzato molto, però... si è saputo poco Torres, perché la gente che conosceva questo mio collega, e poi alla fine l'ho saputo anche da una persona che ci ha veduto lì vicino, mi ha detto che gliel'hanno chiuso addirittura. Fine, agatare un bosco di fuoco. Oggi è successo a Roma una collega di mia moglie, quando lavorava in ufficio, è successo, sono andata a fare un viaggio a Roma, ma non avevamo tutti in greffa. Questa amica loro è entrata a vedere un vestito in questo negozio di cinesi e non è più uscita, allora aspetta fuori, boh, non usciva, da lì non si sono mossi, quindi non poteva essere uscita dall'altra parte, non c'erano altre uscite. E alla fine anche loro hanno chiamato i carabinieri e hanno trovato la stessa cosa, incerottato, tutta legata, i capelli rasati, perché fa il gatto delle bianche, no, ce le vendono. No, è un po' di gongo. È un po' di gongo. Poi le usano anche per esportazione di organi, se vendono gli organi, ma le uve di cazzati. Quelli di puttana. Io ho visto... ammazzavano dei cani, guarda, non avrei fatto la stessa cosa, già peggio gli avrei, peggio. Questa gente, io la odio, ti posso dire la odio. Mi hai tolto le parole dalla bocca, li ho visti anch'io. Praticamente li prendevano con questi ganci da dei gabbioni che c'erano nel camion, e poi gli entravano un punzone nella gola, gli schiacciavano con i piedi, guarda, ne facevano tutti quelli, picchiavano a bastone, e poi li appendevano come gli agnelli. Infatti loro dicevano, voi a me ammazziamo i cani, ma voi ammazzate gli agnelli. Sì, qua ci meglio. Quindi lasciamo prendere già. Comunque bisogna stare molto attenti. Io a mia moglie gli ho detto non ci andare mai da sola, perché fanno queste cose, c'è la mafia dietro, capito? Tu non lo sai, ma loro per coprirsi si comprano questi negozi qua in contanti, danno anche il doppio del valore del negozio, tanto per tappare, no, si tappano così, sugli sporchi li consumano così per non far vedere che hanno rubato, che hanno fatto rapine, eccetera, eccetera. Si coprono questi negozi e mandano avanti l'attività così, capito? Niente malatta, per carità, cavolo. Mi siamo molto in casa ancora, non ci compresi qui. Arrivederci, guarda, ho 1,5, sto paraculo, va. Prendo su io, ora va il piattozzo, non sa quanto scala, va. 11, 24 miliardi si ha preso questo qua. Sono stati veri, ma sono sempre virtuali. Lo so già. Stai vendendosene, no? Io là che ho perso tutto, va a fare la palicina, che un cartellone, va. Ma la cinesi non ha fatto. Sono dei piatti amicidiali, ma piatti alti, Tu a me quante volte mi hanno invitato a partecipare nei giochi e cosa? Mai sono andato, non mi interessa, non lo prendo per quel computer, lo uso per altro. E fai re. Si arriva lui che aveva la fattoria, gli dava da mangiare gli animali, doveva essere sempre, cavolo, dovevo mangiare le mucche, se non vogliono questo e quell'altro, cavolo, sembrava che fosse una contadina, piantare quello, piantare i carciofi. A me mi piacciono assolutamente. Fattoria? Sì. e sono passatempi per le casalinghe che non hanno niente da fare, dopo che finiscono a fare le pulizie, se c'è del computer e gioca. Vabbè, non ci vuoi fare troppo. Purtroppo, ma la sto quasi il cu. E adesso sei stufata, ma prima la facevo ogni sera, eh. Ogni sera, cazzo, fa dire su e giù. Mamma mia. Vabbè, devo vederlo. Non riesco a salire più di quel tanto, allucinante. No, cosa? Ah, fast, ecco perché. Non ho mal. Zip. Privato, ma come cacchio qua? Devo entrare, va, basta, appoggio la sopra la scatola, basta. Basta, c'è la cosa che uscita, la salita a 100 milioni, porca paletta. Una spuscita di là a 100 milioni. Ci ho messo il tutto. Basilicos. Che cacchio? Sarà ciappetto. Che cacchio? Sarà ciappetto. Sarà ciappetto, sarà ciappetto, sarà ciappetto. Ya, ma ci sei? E qua sono. Un attimo. Salvatore. Salvatore, ci sei? Forse mentre stavo facendo roba e stavo all'ascolto, poi non so dove sia andato. Salvatore, un attimo Massimiliano, rispondo. Si era addormentato sulla tastiera. Appagato. Vabbè, io mi sento che me ne avevo tutto quanto 144, che domani si lavora presto. Ciao ciao a tutti, buonanotte e buon quello quando lo fate, dai. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao a tutti. Senza prezzo di riserva, pagamento cash, perché l'ha mandato immediatamente. lo devi pagare. Contrassegno, scusa. Lui il pacco se lo ritrova in contrassegno, quindi io ipoteticamente gli potrei mandare due bei mattoni, capito? E nel momento in cui lo richiede, segno perfetto, se vuoi incontrare a me, vieni ipotetico, ma non è questo il mio caso, perché non è questo il problema. L'unica cosa, forse, chiedevano se ti fosse provato a resettarlo, c'è la possibilità di resettarlo in qualche modo? Sì, si può resettare. Si resetta. Devi radio spenta, devi accenderla tenendo il pulsante A uguale B della parte UFO. Capite? A uguale B, che è l'ultimo tastino giù in fondo a sinistra. Devi accenderlo tenendo premuto quello. In pratica ti sparisce tutto quello che è in memoria e ti appare la frequenza dei 20 metri. La frequenza dei 20 metri. Ma non credo che sia quello. Non credo, perché lo stadio finale non ha niente a che fare con la parte del VCO, della parte del PLL. Di lui ha tutto il rattoppato. Sicuro, guarda, 100%, perché ne parlavo con Massimiliano stasera. Anche quando tu non c'eri, ed è una cosa che fanno in molti, capito? Parte il finale della radio, ti mettono un finale di baracchino da 10 watt e si blocca lì, perché non va né da avanti né indietro, cioè da 10 watt su tutte le bande, capito? Se ne escono con 5 euro. Mentre i finali, la coppia di finale del 440 costa 250 euro più IVA, che sono della Mitsubishi o della Motorola, perché la Kingwood non li fa la Motorola e la Mitsubishi, quindi è un controsenso, no? Che lui stia vendendo una radio a 400 euro e poi ce ne va a mettere 250 per metterla a posto. Praticamente questa radio le costa 150 euro a lui di guadagno, quindi non le conviene, ci avesse lo fotto, lo metto un finale da 10 watt a 2 lire e glielo mando giù, lui lo prova, vede che funziona, però lui non ha fatto i conti che uno prova anche i watt, e conoscendo la radio e sapendo qual è la capacità della radio, è chiaro che si accorge che c'è qualcosa che non va. L'unico problema è quello, perché se fosse un problema di taratura sarebbe risolvibile al 100%, perché in AM tutti i 440, 430, 140 e 180 hanno 20 watt, poco più di 20 watt, quindi non fai altro che aumentarlo leggermente e va bene così, come faccio io normalmente. Però la potenza effettiva tra le vedere in FM e in banda laterale, se quella è bloccata sia in FM che in banda laterale, il problema è quello lì, il finale non è il suo. Ma poi, ti ripeto, sono sceso anche giù senza modulare, solamente accordando, dando un colpettino importante giusto per vedere come si comportava e rimaneva sempre schierato. Arrivano, lo sai, comunque questo qua dice che se lo vuole riprendere, però secondo me ritorna all'attacco, perché uno non se lo tiene un pacco in casa, quindi sicuramente lo rimette in vendita su eBay ed è buono, è bene sapere e fargli dare voce chi è questo qua, capito? Quindi adesso non mi ricordo esattamente come il link di eBay, però ve lo faccio sapere, perché soprattutto tu che ne stai cercando potresti incappare nella stessa cosa. No, non mi butto così a... no, no. No, prima di comprare, mi lo sa Claudio, ma mi sa lui, sto qua, poi si vedrà. Appena la guarda, io sono sincero, se non vedo una cosa, è più forte di me. Se per esempio non vedo un altro telefono, un barchino, faccio un esempio. Questo telefono ha dei problemi di cui due problemi, uno è in banda perché non casiste, non c'è un casino perché non riceve bene, bisogna riallinearlo, e l'altro è la ricezione della M, i segnali forti si sentono un po' strani. Però il maestro lo dico, lo vedo un po' così lì, assolutamente, quello è stato disonesto proprio. Come infatti ti ho detto, si può cadere chiunque, perché lui ha scritto che era perfetto. Ora ha messo una foto frontale, dove non si vedeva niente, che la radio era davvero perfetta. Lui per assurdo ti poteva anche dire, vabbè guarda, te la faccio sentire anche sui 40 metri. Si metteva sui 40 metri e te la faceva sentire a distanza. Tu dicevi, vabbè, magari non era quella la radio, capito? Quando compri a distanza, come ha detto giustamente Claudio, le cose si possono andare bene, come a me tre volte sono andate bene. E una volta è andata male. Male, poi ti ripeto, ho la fortuna, se di fortuna si può parlare. E questo qua te la riprende. Posso sperare solamente di rintascare su, se non finisce. No, però da lì lo sai, basta avvisare i bei, poi si arrangeranno loro, però poi non denuncia, sai tu. Ascolta, ti è venuta a quanto questa radio? Vabbè sì. Sì, ma ti ricordavo la cifra lì. Praticamente il danno qual è? Non l'ho fatto? Vabbè, siamo ingoiando, una della parente idraulica. Stavo dicendo, 3,86, ma lui ne chiedeva 4,40, compra subito. Poi quando ho iniziato l'asta, siamo arrivati a 400, io avevo messo 400 come il prezzo finale, e non avevamo raggiunto ancora il prezzo di riserva, quindi lui l'ho contattato, gli ho chiesto quanto volesse, oltre che 400, mi ha detto che 400 andavano bene, sai, da 4,40 a 400 va bene, cioè non è che è sceso così tanto, quindi diciamo che era il prezzo suo, non era stato così accomodante. E che dovevo sospettare quando a un certo punto mi ha detto, no, l'ho fatto appena riallineare, ma lui dice che ogni 5 anni faceva questa cosa qua, che lo faceva riallineare ogni 4-5 anni, quindi mi sono fidato. Poi ti ripeto, avendo il nome, avendo il cognome, sapendo dove abitava, ci ho parlato anche con una persona di 70 anni, visto che sono delle tira così fatte. Allora aspetta, io ho sentito che è preso una fregatura. Quale problema ha la radio? Che ci fa? Poi vediamo se è finale del 48. Vabbè, se è finale del 48, la sigla. Stai dicendo prima che mi siete sovramodulati, un Antonio, vai. Quando ho l'impressione proprio di Scillo, che lì abbiamo messo un finale di baracchino proprio per far andare la radio, perché in matematica la cosa, cioè un po' per esperienza vissuta, un apparato Kenwood di qualsiasi tipo, dico 440, 680, 140, 430, ma anche i vecchi 120, 130, 930, momento in cui hanno un problema sullo stadio finale, l'unica prova per sapere se lo stadio finale è efficiente o se è andato in perdita è fare la prova in FM. Nel momento in cui Antonio ha fatto la prova in AM 10 W, dovrebbe tanto può darsi che ci sia qualche problema in AM, quindi non è una grave difficoltà, si tira leggermente a 30, 40 watt, 50 watt, è il problema risolto. Però lui mi ha detto, guarda che ho provato anche le altre bande, non fa, perciò aia, allora prova in SSB, ha provato in SSB e rimane stabile a 10 watt. In SSB con l'oscillatore, perché in SSB c'è la banda che oscilla. stessa cosa, sempre a 10 watt su tutte le bande, su tutte le frequenze, 10 watt a 10 watt. Cosa vuol dire? Che abbiamo tolto i finali sui, che solo il prefinale da 25 watt per recitare quello da 100, quindi hanno tolto il prefinale e il finale e hanno messo un unico finale fisso da 10 watt, sicuramente al 100%, perché la coppia costa 250 euro, altrimenti non ci stava più dentro. Sono immaginati che quello del 140, quando fischio, ma tutti e due, non quello speciale rispetto all'altro, quando fischio in banda laterale, si sbatte il lago dello smitterto da destra, capisci? Aspettiamo tu, è l'oscillatore della banda laterale su tutti e due, io non li ho toccati, perché se vai a toccarli è ancora peggio. Quindi una volta che tu le dai il picco di modulazione in AM, lui avendo l'oscillatore a frequenza diretta, quindi una volta il massimo laterale tira il picco di modulazione come quello dell'AM, quindi sono oltre 150 watt. La stessa cosa dovrebbe fare quello. Il 440 ha due finali da 50 watt, quindi immaginati tu che cosa può succedere. Io con questo, con il 440 mio, ho 30 watt, 40 watt di portante e sto modulando quasi a 100, quindi immaginati tu che posso ottenerlo anche stabile a 50-60 watt di portante e modulo a 120-130, ma tutte le radio che faccio io sono così. Quindi il problema non era un problema se dava 10 watt in AM, si portava a 50 watt, perché lo stadio finale consente quel tipo di manovra, ma se c'ha 10 watt a tutte le parti, quello non è il suo finale, tutto è che andiamo a toccare e a fare, rischiamo di fare più danno, quindi è giusto che le domandi, e come gli hai già detto, non sei contento, non è conforme, e quindi si ubbilla e si umagna, e poi se ne troverà un altro, capito? Poi fatto stesso con un metodo tu che si è messo nella maniglia, che io le maniglie le ho sempre comprate, le ho sempre ordinate, me le hanno mandate tutte le aziende, c'erano le maniglie delle radio, tra l'altro la maniglia della Kenwood è uguale a quella della Icon, quindi non costa niente, costa 10 euro più trasporto, e la metti nuova e bellina. Lui si è messo lì a pulire con la carta vetrata e ha rovinato la maniglia. Secondo te quello è un operatore radio? Ma per favore. Sai che cos'è che mi ha fregato anche? Io ho guardato tutti i suoi feedback. Allora, ha 25 feedback di radio che costano 700 euro, che ha venduto a 700 euro, quindi radio, anche adesso io non me ne intendo di alcune tipologie di radio, comunque non ce l'ho qua davanti, se no te le avrei lette, ma è gente contentissima, quindi figurati, ho detto 700 euro, non sono qua 380, quindi di conseguenza ho detto vabbè, fidiamoci, ma ti ripeto, ne avrà venduto 3 o 4 di apparati così, gente contentissima, di conseguenza è normale che ti fidi. Non ho mai venduto su eBay, mai. Se avessi venduto su eBay, minimo avrei avuto delle luce, perché io ho venduto sempre radio veramente buone, nuove, trattate bene, ma con difetti zero. Io quella che c'ha Roberto Quadrato, la mia, quella che c'ha Sandro, la mia, quella che c'ha Luca, la mia, quella, ma ce ne sono tante a Sassari e fuori Sassari. Non ho mai avuto nessun problema, capito? Mai, perché la radio la dai buona, l'unico problema che ti puoi sentire dire, sia un ladro, mai fregato, sia un farabutto, sia un delinquente, queste cose a me non mi piacciono. Perché la radio è una cosa seria, per me è veramente seria, è come una famiglia, capito? Quindi ci si vive e ci si deve comportare in una maniera tale da far sì che nessuno ti possa dire che sei un farabutto nella vendita. Poi se uno ti dice che una persona sia un coglione è accettabile, ma se una persona vende deve vendere con onestà, perché chi sta comprando ti sta dando soldi, non ti sta dando busta di immondezza, capito? Quindi lui secondo me è un disonesto, lui sa qual è il problema di quella radio, ma visto e considerato che ha bollato subito e dice cazzo, se mi ha scoperto, mi rovina la piazza, mi fa casino anche sui suoi dei, meglio ritirargliela e mandarla ad un altro che magari non ne capisce un accidente. mi sto preso in contropiede, capito? Però, lui è questo, l'anima del contropiede, adesso non vorrei dire, però non ci volevi certamente tu a capire una cosa del genere, nel senso che bastava anche una persona che avesse come me una cultura un attimino decisamente mediocre, perché se tu mi scrivi che in AM tre bande, come ha scritto su DB, prende 100 watt, la prima cosa che fai gli dai potenza e vedi un attimino, no? Quello che ho fatto infatti. Ma lui ha calcolato il fatto, e c'è questo CB, capito, che la mandiamo, 10 watt per un HF sono più che sufficienti, ma non si accorge neanche che ho scritto 100 watt, ma posso sempre difendermi nel dire che per un HF che quindi era 100 watt in banda amatoriale, e invece si è fottuto perché neanche in banda amatoriale era 100 watt, quindi ha detto solo forma. Allora io lo sento spesso, ti ripeto, in 40 metri, quando ero a casa la settimana di ferie, che scendevo la HF la mattina, magari stavo lì in ascolto, anche entravo a volte a fare due chiacchiere, lui c'era sempre in 40 metri, a 7080, 7083, 7070, lui sta lì, e se tu lo senti parlare, è un perfettino, una persona molto, molto curiosa anche delle radio degli altri, cosa stai usando, cosa stai usando, ma come mai col microfono è meglio dell'altro, sta sempre così sondando, capito? Ma non mi sarei mai aspettato che fosse una persona così incapace, perché, ripeto, io vivo nel mondo della radio da ragazzino e non mi sono mai permesso di prendere per il culo nessuno, perché la vendita di una radio per me è una cosa sacra. Io, tu lo sai, i 240 che ho io sono sì 2140, però io non li do perché hanno dei difetti che conosco solo io, quindi li so far funzionare io come Dio comanda, dandolo ad un altro il difetto potrebbe aggravarsi, potrebbe dare dei fastidi con la quale io poi mi trovo in grossa difficoltà, sembra che abbia fottuto qualcuno, quindi siccome non mi interessa guadagnare 600 euro da due radio, ma le tengo e me le uso come dico io, capito? Non si fanno queste cose, potrei dire tu lavori 140, 250 euro, non le dico il difetto che c'ha, quindi lui sai 250 euro, cazzo me lo compro, funziona perfettamente, funziona benissimo, però può capitare che salti fuori il difetto, io so come togliere il difetto, lui no, si inceppa e mi dice che sono buonissimo farabutto, quindi non va bene. Ma poi sai come? Io me ne sono reso conto subito, perché come l'ho scartato, innanzitutto la saponetta L43 era dietro, non aveva più il coso dell'aggancio, era spaccato, e il cavo non era originale, aveva fatto due cavini con due componenti, perché è presente che si dice dietro ci sono due positivi e due negativi, lui ha messo due cavi con un coccodrillo ciascuno e dopo si andava a incastrare nei due cavi. Per carità, che dingano anche quelle basettine di ferro che poi sono rivettate, ma è un perno tutto lì coperto, all'interno c'è il danino, lo sganci e lo metti nuovo, ma per favore, guarda, io quello che ho preso, ti ripeto, dentro la scatola col nylon, mai usata, decimale, mancava un decimale, Massimiliano mi ha l'aperta perché c'era tagliare un diodo, mi sembra, per far apparire l'ultimo decimale 00, il diodo per la sintonia continua, watt erano completamente chiusi, ma chiusi nel senso che aveva 35 watt in AM e 100 in banda laterale, quindi ho portato a 100 watt anche in AM e ho aumentato leggermente il picco di modulazione. Il cavo di alimentazione dentro la busta mai usato, il microfono l'MC43 mai usato dentro la busta, quelle sono persone che bisogna elogiare per come tengono le radio, non dico l'ingaro che cioè avere le vite spanate, le mette perché non ha altre vite che costano 10 viti di quella serie lì, io ne ho proiettile elettrico. Sì, beh, tu ma stai sentendo? Stai sentendo quello che ha detto Antonio? Ma sono un po' cracca, mi hai fatto in tutti no? Che ripeti? Quando scende la tali mi riabbascia, io non voglio abbasciare nulla. Facevo abbasciare. Questa è la regolazione che io ho sempre, non sto manco gridando. E facevo abbasciare. Facciamo a uno di Mike King, anche ieri mi ha detto abbassa, l'ho abbassato. La prima volta l'ho abbasciato, te l'ho detto, e così non esce. Così non esco. O perché non esce, cazzo, ce l'abbaccio di più. Non esce se l'abbaccio di più, te. E non mette per forza uno. Va bene. Gridare, fa la voce, dimmi, stavi dicendo. Il piano sto gridando io, sto parlando piano, non grido come mi sia sempre che se non strappa. Hai sentito cosa ha detto Luca? Ma cosa ha detto Antonio? Che invece di trigere le viti gli ha messo un pezzo di guaina. C'è un pezzo di guaina? E le ho tolto. Che tappi? Devi mettere una vite autobilettante, che non era questo il caso, all'interno di un pezzo di legno che si spana, allora ci infili un altro pezzo di qualcosa in modo tale che prenda la filettatura, una cagata, e questo qua c'è un pezzo di guaina e infili legno. Che coglione, per carità. Io no, però, comunque, su internet, diciamo, l'80%, facciamo 70%, là. Tutta gente disonesta, 30 lo trovi persone oneste, tipo quello che mi ha fatto comprare da Roberto, ti ricordi quel Vuca? Andava benissimo la radio, no? Poi io ho rivenduta un tipo che mi ha detto che era molto contento, nuova come io gli ho detto, ma stessa cosa. Rientro. Passo l'atto. Buonasera a tutti, vi stavo ascoltando, io sto facendo degli esperimenti per conto mio su un'installazione, vi ascolto con piacere, saluto a tutti. Sarà piano con gli esperimenti, No, non iniziare. No, dico, gli esperimenti sono belli, l'importante è che gli strumenti di misura siano efficaci, Mi dubbi. Accendendo il motore, no, negativo, sto facendo un'installazione. Sono contento quando tu installi, però attento agli stalli, capito? Perché installare è una cosa, poi c'è lo stallo che è diverso, poi c'è la penna che già siamo in una settimana di bidonate, quindi facciamo la bravi. Ok. Non è possibile, non aver fatto un casino con questa radio allucinante. Vedi, a tua differenza dei colori. Io ho il macchinino a uno, mentre con quello che mi ha passato tenevo il macchinino quasi a 2, a 1,5, 1,7, 1,8. Questo ce l'ho a 1. E sono in cuffia, ragione Luca, mi sto facendo sordo. Ma se lo abbasso ancora di più, non esce. Non esce, la mazza di Livoria, che ho lo spalliero, devo aver tirato troppo su il processore della LC. Vaffanculo a me, vabbè, domani lo abbassiamo di un pelino, così possiamo garantire meno casino. Ok, c'era qualche altro per qua, no? Allora, se parli tranquillo, sereno, va bene. Non c'è bisogno di toccare niente, non devi stare niente, parlare, toccarlo. Ah, tranquillo, se non te lo vedi che ti accorgi, aumenti il tono della voce e lì te lo compare di più e hai talmente forte che diciamo dico è comprensibile ma qua. Trappare non trappa, non mi dire strappa perché questa è regolata alla perfezione, ma è che l'ho regolata troppo alta, quello sì. Ma strappare non strappa. Come strappo, una vita un po' forte, capito? Cioè, questa cosa se io ti ho detto l'amplificazione non mi capisci. Sì, se ti capisco non sono sordo. Non ho mai proprio questione di potenza di modulazione. L'ho aumentata troppo, riferimenti di Claudio Spalliero, non combinare un Adonis con l'equalizzatore a un Kenwood. Vediamo cosa ne salta fuori. Fino adesso ho avuto fortuna, non vediamo. Roberto, quindi compenso cosa hai deciso? Lo spedisci domani mattina allora? Compenso ho deciso questo, innanzitutto l'esperienza fatta in campo di fotiture. La seconda cosa, mai aperto un 440, perché io il 140 l'avevo aperto una volta, solamente l'unica cosa che mi sono permesso di fare era quella di girare la rotellina dietro il mic gain, lo slide del mic gain del 140. Io lo vedo molto più, il 140 lo vedo molto più snello da aprire, nel senso molto più facile, perché l'apertura al libro ti mette nella condizione di avere sottucchi quasi tutta la radio, perché molte cose sono giù, tipo il diodo che hai tagliato tu, che in tutti e due il 140, anzi in uno l'hanno tolto, nell'altro si vede che è stato tagliato e lasciato lì così. La vedo più compatta il 440, è un po' più difficile da lavorarci dentro, molto ravvicinate le schede, molto ravvicinate i componenti, bella radio lo stesso, bello il rumore del coso, dell'accordatore automatico. Decisione di riferirglielo, secondo me, io me la sento così, me la sento in due modi. Uno, realmente domani mattina, allora provo un attimino a resettarlo, ma so che non porterà niente. Dopodiché Fabrizio mi aveva chiesto di vederlo, ma esclusivamente perché nella sua dice che aveva un problema di cose, di QRM, che è un po' strano, quindi voleva paragonarlo con un altro 440, e quindi siccome in ricezione questo mi sembra buono, tranquillo, con la cosa lo apriamo e vediamo un attimino se è stato smanettato. E dopodiché il pacco è già pronto, perché l'ho preparato in modo tale da poterla comunque non chiudere del tutto, proprio per farla vedere domani mattina, e dopodiché lo rispedisce dietro. Se non è che scende un compromesso, mi restituisce metà della cifra e allora non parlare. Quello è una buona idea. Proponile 100 euro di differenza, si a cavallo, comunque 100 euro se dovesse essere quel problema che ti ho detto, o darsi anche che mi stia sbagliando, e attenzione, quindi con Fabrizio che ha già abbastanza praticità su quella radio, su quel tipo di radio, la fai controllare a lui e vedete un pochino, lui c'è lo schema, quali sono i parametri e gli allineamenti, se sono giusti a quelli che sono su quelle schede lì, soprattutto sulla scheda 5 del WCO e sulla parte della LC. Dopodiché andate a vedere lo stadio finale, se è originale o se è stato toccato, già se ne accorgi. Te ne accorgi subito, perché i due finali sono attaccati, sono doppi, quindi si vede se i finali sono originali. Se vedete che i finali sono originali, non fate altro che andare a vedere i parametri, se sono giusti, allineati, eccetera, per vedere se anche ci sia un fuori allineamento sul prefinale, un'eccitazione bassa e quindi il finale non si muove da quei watt. Quindi Fabrizio sa come deve fare, lo portate ad aumentare l'alimentazione sul prefinale. Se invece vi accorgete che i finali non sono i suoi, non fate altro che chiudere la radio, se fa toccare niente, gliela tirate a testa. Altro non ce la fa dentro, capito? L'ultimo tentativo è quello lì. Vederò un pochino con Fabrizio domani, dopodiché prenderai le tue decisioni, capito? Però il compromesso potrebbe essere anche quello di farti restituire un centinaio di euro, e nel caso ci fosse qualche problema più grave ti aiuti per metterlo a posto, insomma. Ok, va bene, tutto lì. Aspetta un attimino, ti volevo chiedere, una volta aperta la radio, io ho visto che adesso non mi ricordo se nella parte sottostante, no, ma nella parte superiore, centralmente ce l'hai presente tu, il 440 è stato aperto, visivamente ce l'hai presente? Sì. C'è una gabbietta, una specie di scatoletta metallica che sta al centro, e se non mi ricordo se nella parte sottostante o soprastante. No, è soprastante, sulla sulla sinistra davanti allo smitter. Allora, c'è una gabbietta che è tenuta da tre viti che hanno una quarta, c'è una messa a terra, cioè c'è una specie di cavetto con una messa a terra. Se tu guardi sulla sinistra, quasi dove c'è una specie di motorino, sembra, lì c'è una, non è che è una sfiammata, però sembra che ci sia delle macchie di nero, strane, come se qualcosa avesse bruciato. Quella è la parte del trasmettitore, quindi quella è la parte proprio delle citazioni dei finali. C'è quella scatoletta di color acciaio, quella lì sei, dicevo tu, che c'è il capo di color acciaio. Ah, ma poi una cosa che ho notato, che questa scatoletta, chissà perché è stata anch'essa litigata, sembra con carta abrasiva. No, perché non venga con la scatoletta, c'è un rivestimento di plastica, perché il tappo del 440 non deve andare a toccare su quella scatoletta perché potrebbe andare in cortocircuito, lì c'è tensione. Quella è proprio la parte dell'alimentazione dei servosi del microfono e l'alimentazione del finale, se te lo dice Fabrizio. Quindi quella scatola è chiusa, è isolata, la mia c'è un isolatore sopra di plastica, di gomma adesiva, proprio per far sì che non ci sia niente che possa appoggiare sopra e quindi rimane isolata, perché lì c'è tensione, capito? Lì ci sono le medie frequenze in tensione. Ecco, le finali invece dove si trovano? Finali siamo in fondo o vicino alla parte del PL, dove c'è proprio tutta la scheda del PLL. E a sinistra in fondo? Sì, in fondo proprio verso il dissipatore, diciamo. Parotte, dai, gli do uno sguardo, ma giusto guardarlo a lontano, dai. Beh, guardare non ti costa niente, però Fabrizio è abbastanza preparato su quella radio, perché ho visto come ha lavorato su quella che ne avevo lavorato io giusto per giocare, e alla fine è risultata un po' più positiva di prima, anche se c'era tante cose da fare, ma poi abbiamo mollato perché l'offerta era invitante e quindi l'ho venduta così, capito? Però è abbastanza preparato, quindi vedere anche con lui e vedete un pochino se c'è la possibilità di metterla a posto. Ho visto che è ricevente, che trasmette molto bene, perché ho sentito la modulazione, va benissimo. Poi se c'è da fare qualche regolazione con la mastronzata si fa, per quanto riguarda la modulazione più aggressiva, più o meno, insomma, quelle sono regolazioni che si vedono dopo, ma se la radio è efficiente, ricetta la trasmissione, è un peccato perderla. La proposta che devi farle è quella che hai detto, 100 euro in meno, oppure che ti mandi un altro MC60, se ce l'ha te lo vendi e recuperi subito le 100 euro. Ma, sì, dai. A proposito, non l'avete sentito oggi, Fabrizio? No, io stamattina ero al lavoro, nel pomeriggio ho acceso anche tardi, so che dovevo andare al lavoro anche oggi, ma ieri notte verso le 11:30 era già in viaggio, quindi sicuramente si farà sentire tra un po'. Ah, perché secondo te è al lavoro adesso? Mi doveva fare dalle 2 alle 10, non so se lui fa dalle 2 alle 10:30, o dalle 2:30 alle 10:30, non lo so. Ieri è verso le 11:15, 11:20 stava rientrando. Attenzione Fabrizio Chirigato, esci dall'ombra io. Perché se è al lavoro gli faccio uno scritto, se è a casa non mi sembra il caso. Se è al lavoro gli faccio uno squillo, se è a casa non mi sembra il caso di disturbarlo. Ma non mi ha detto che era al lavoro. Chiamo al telefonino a fare entrare la radio. Te l'ho spento. Aspetto che mi faccio una fischiettina, un secondo, chiamo al telefono. Sì, ma ce l'aspetto, ho chiamato adesso. Allora è al lavoro. Allora, almeno per 10 minuti, un quarto d'ora e sto partendo dal lavoro. Frutta e verdura. Perché io ho mangiato leggero stanotte. va bene, pompa, pompa. Sempre questo. Poi non so se tu hai aumentato la LC qua. Carità. Quindi noi domani dobbiamo terminare, abbiamo fatto 22 verniciati, 22 termosifoni, scuola, cui 7 androne li abbiamo dato a seconda mano, dobbiamo entrare in 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classi, in ogni classe ce ne sono 2, per un gotto, dargli a seconda mano. Poi li abbiamo finito, via, a ottava, alleluia. Sarà di 5, sarà di avere qua questa radio, quella è tutta preparata, LC, tutto quello c'è, tutta bloccata, tutta aperta. L'unica cosa che ho fatto prima di darti era di averlo abbassato la potenza a 50 watt perché non sapevo se ti andava bene o meno, invece poi l'hai voluta come la prima, te l'ho messa come la prima a 100 watt. Io ho aumentato un piccolo lavorazione e la potenza a 100 watt. Deve andare tutte e due assieme. Il piccolo di modulazione deve essere conforme alla potenza che tu le dai, altrimenti ti sfase la modulazione. Capito? E adesso Franco vuole abbassare sia 80 che a 3, perché non ce la fa l'alimentatore suo, non ce la fa. E allora altro me la portava, invece non me ne ha portato, non so, non lo vuole portare. Cosa faccio? Gliela abbasso un po', effettivamente è troppo, troppo tirata la radio, mi ricordo perché l'avevo tirata così, io c'è un alimentatore suici che se la mangia con la radio, come se leva la potenza a 100 watt e si posa l'alimentatore, si abbassa la luce. Ma con il MOSFET a 200 quanto è che è aumentato il consumo di ampere? Vabbè, io con quella che ho dato a Sandro, adesso sto facendo fare l'altra che ho mandato sul continente, sto facendo cambiare lo stadio finale a MOSFET da 200 watt. Quella che c'è Sandro c'è il finale a MOSFET da 200 watt e credo che lui usi 50 ampere perché il 35 ampere non ce la fa. Pensa tu, 35 non riesci a coprire. Ma manco per sogno, banda laterale c'ha 30 ampere di assorbimento, 28 ampere, 28, 30 ampere di assorbimento, quindi sei al limite in banda laterale, in AM devi tenere una potenza non superiore ai 150 watt, perché altrimenti te lo siede. Io infatti vado col PS50 proprio per quello, perché ero abituato ad avere lo stadio finale a MOSFET sul 440, infatti ne avevo due di PS50, uno l'ho dato a Sandro nella Kenwood proprio per avere la massima affidabilità su quella radio, perché se lo usi con un switch che in 5 minuti ti fa saltare la scheda, andrà bruciato il switching, un Nissi switching da 30 ampere, mi ha crepato, mi ha bruciato la scheda. Io credo di aver però abbassato talmente poco. Ecco qua. Ecco qua. Una curiosità. Parlando dei VFO, secondo te sarebbe utile ogni tanto utilizzare anche il secondo di oscillatore? Sempre. Con quelle radio ricordatevi, ma sia per il 440 che per il 140 non state mai in memoria fissa o su una frequenza fissa. Uscite fuori dalla memoria e fate scattare il relay, quindi down e up, prima uno a salire e farle fare tutto il giro, poi l'altro a scendere e a tornare indietro, intanto la ricerca automatica va 1160, quindi fa gli 80 metri, cioè i 160, gli 80, i 40, i 15, i 20 e così via, torna indietro, per far sì che il relay dia la giratina gliela fai a... con lo scan? No, col down e up, esci fuori dalle memorie e vai col down e up. Per tutto ben up è già memoria. Quindi ci dici che ti sento che ci sono e ci provo. Ci prendo un piede di terra. La mia sorella è chiusa, ecco qua. Salvatore, quando esci dalle memorie, la mia app ti dà praticamente le frequenze tutte in serie decametriche, e lo fai fare prima salire e poi ascendere, oppure solo salire, oppure solo scendere, l'importante è che faccia tutto il giro completo. Ho capito, ok. Quindi senza premere il pulsante 1 MHz? Non senza premere niente. Senza premere niente, io ti accendo questa. Ecco qua, massimo su cane 10. Esco dalla mia unghia. Esco dalla mia unghia e cosa faccio? Vado su down e up, così. Così. Il tuo dito? Non il mio dito. Io ho un dito su un down. Io quello e vai in effetto frequenza automatica, no? Sono vedo lì che stanno scattando, sto facendo il giro. Fa 1000, 3000, 7000, 15000, 21, 14000 e torna indietro. 28, 30 e torna indietro. Aspetta, io ci provo un attimo. Portalo sto scemo, la sua. Cosa? Cosa è questo? Non muoveggio, ma che te ne si può attaccare. Non intendi? Aspetta un attimino. Ok. Ma bisogna però... io lo devo tenere premuto per fargli fare quel giro lì, là. Col dittino piccolino tieni premuto o down o up, quindi o avanti o indietro. L'importante è che lui faccia tutta la scansione. Se io faccio con lo scan ti fa la scansione sulla memoria che lui aveva impostato, invece quello ti sta facendo la memoria sul WFO, tu hai detto WFO, no? Sì, e la domanda era, visto che io ci ho sempre puntato il WFO, mi stavo chiedendo se era utile fare comunque lavorare anche la parte elettronica del resto della macchina. Esatto, con quel sistema che tu vai a fare, che ti ho detto io, va da WFO a WFB tutto in automatico, con tutta la scansione completa, facendo lavorare tutte le reti di commutazione. Quindi è molto importante farle fare ogni tanto questo reset così elettronico, perché mette in circolazione tutte quelle che sono le impurità e le di commutazione, e quindi si mette in possesso la macchina, capito? Perché anch'io ho 100 memorie e le memorie date tutte 100, e quindi rimango sempre in memoria, non faccio altro che girare il WFO, però è fattibile che si blocchi qualcosa. Allora bisogna uscire dal WFO memorie e farle fare una scansione completa sul WFO generale, che è quello che stavi andando a fare tu, capito? Tenendo premuto un down o up, quindi o avanti o indietro, l'importante è che lui faccia la scansione delle leghe. Sì, perfetto. Invece se gli do il colpettino, lui ho visto che scende di piano piano, mi fa la scansione proprio degli hertz. Esatto. Anche 4 e 30 così sono uguali come sistema di scansione. Anche 140 è sempre quella la scansione. Delle memorie invece rimane stabile. La cosa comoda che al 140 che c'è il WFO memoria e il WFO separato. Nel momento in cui tu vai a memorizzare c'è una WFO memoria che serve proprio come un baracchino canalizzato, capito? Quindi leggendo le 440 tu le butti dentro le 100 memorie, usi il WFO memoria e vai avanti col WFO di sintonia, no? Col pomodoro. il doppio VFO lo usi regolarmente quando lavori nelle bande amatoriali? Ma sì, adesso io ho una radio esclusivamente solo con le bande amatoriali, che è l'FT950 della IES. Quello fa solo bande amatoriale, mentre tutte le altre ho un 140 in lo straccemento a 21.200, quindi sono i 15 metri. L'altro 140 ce l'ho a 14.200, che sono i 20 metri. Il 430 ce l'ho in 10 metri a 28.400 e il 440 ce l'ho ad uso baracchino. Ok? Mentre il 950 ce l'ho in 6 metri, quindi a 50.110 come memoria principale del VFO A, mentre il VFO B è in 40 metri, in 160 metri e in 80 metri. Ogni radio ha la sua frequenza. Ho capito. E ma parlando, facendo i tuoi contest, fai l'utilizzo proprio del doppio VFO, quindi una frequenza ad esempio in ricezione e l'altra appunto in trasmissione? No, se ho fatto in 40 metri, ho lavorato in 40 metri e basta. Non ci sono mai riuscito a lavorare così con due sintonie, con due frequenze diverse. Uso qualche volta lo split se me lo richiedono, perché sono a volte delle animatori che lavorano in split, quindi trasmettono a 7040, ricevono a 7100, per cui allora ti dicono di mettere lo split, e quindi sembra che stai parlando da solo, ma invece c'è l'altro corrispondente che sta lavorando in split. Esatto, quindi è proprio per creare una sorta di telefono. Esatto, quindi io lavoro in VFA e lui lavora in VFB, io in VFB e lui in VFA, quindi si lavora in split, lui ti dice vai 300 su questa, e quindi io lavoro in base a quello che mi dice lui, capito? Io parlo a 7040 e lui invece parla a 7100, io ricevo a 7040 e lui riceve a 7100. Si lavora così, ma poi piano piano già prendi quota anche tu, non ti preoccupare. Va bene che va bene. Anche l'hai trovato a Fabrizio? Infatti io stavo pensando di rifargli uno spillare, ma ho detto questo. Dai, lo chiamo anche. Provo a vedere se è uscito da trabacco. Quando c'è lo split attivato, comunque se tu premi la portante non senti l'audio di ritorno dell'altro, se vuole parlare contestualmente. Scusa, se è negativo non è raggiungibile. 5 minuti di QRX per me, sto arrivando su. No, perché si lavora su due frequenze diverse. Automaticamente si lavora con due VFO diversi, Salvatore, quindi non puoi mai avere nessun problema. Nel senso che, quindi, comunque, in ogni caso, se tu stai parlando, in ogni caso non sei in ascolto contestualmente, o sì? No, lui ascolta te con lo split a 7100 e tu ascolti a lui con lo split a 7040. Quindi la mia ricezione è la sua ricezione è la mia praticamente. Tua ricezione è la tua trasmissione. Esatto, è invertita. Però la bontà di questo di questo metodo mi sfugge un pochettino. Perché? Perché in fin dei conti tanto valeva comunque utilizzare la stessa di frequenza, o no? No, perché se tu utilizzi la stessa, se c'è casino, se c'è molta propagazione, lui ti dice di lavorare in split per far sì che lui ti capisca meglio. Questo quando ci sono, quando c'è molta propagazione, quando appunto ci sono dei contesti particolari. Ok, perché in effetti però io posso sentirti benissimo, o tu per una serie di motivi potresti non sentire bene me su questa, mentre mi potresti sentire bene se io ti trasmetto su un'altra. Ti trasmetto su un'altra e quindi ti metto nelle condizioni e mi metto contestualmente nelle condizioni di farmi sentire meglio, perché nella mia trasmissione casomai non mi porta appresso quelle spurie che non ti consentono di sentirmi bene, mentre viceversa, siccome la tua è già stata casualmente o quello che è cassata come una frequenza buona, pulita dalla mia parte ascoltandoti, quindi quella diventa una e l'altra è quella sul quale ci si mette d'accordo. Sì. Certo che sì. Ok, punto 5 Rix, va bene. Aspetta, sto salendo. Prima commentavamo con Pomponio e con Luca che perché c'era Sandro che arrivava un po' disturbato. E come siamo passati in FM, cavolo, è una pulizia esagerata, una pulizia esagerata di modulazione. Lo so, però a me non mi piace FM, ma in AM. Eccoci qua, ci siamo di nuovo. Mi piace avere gli strumenti che si muovono, meno se ne fermi, rimangono troppo stabili. Ma 4,40, ma anche 4,30 così è la stessa cosa. Regolazione regolabile su tutto, potenza regolabile su tutto, ma va alla grande, va alla grande. Ottimo per la truppa, questo è... Era una signora macchina, è una signora macchina, non avevo dubbi, e dispiace, ci picchia per quella di Antonio, che ha preso questa battosta prima di spedire. Io avrei tentato qualcosa, insomma, non solo vedrà con Fabrizio, adesso dove mettere le mani, a vedere un po' cosa salta fuori, quasi sia una stronzata, una fesseria. E quindi è riuscito a recuperare, perché è una bellissima modulazione, una bella ricezione, quindi se si riesce a tirare un po' sulla potenza. Però tu mi insegni che a volte questi problemi potrebbero essere anche sintomo di altri che poi si scoprono dopo, che saltano fuori dopo, per cui partire con un piede giusto è senza dubbio molto più, offre maggiori garanzie, no, perché non si sa mai che puoi apprenderlo. Sentivo i commenti prima di come descriveva Antonio l'aspetto estetico della macchina, è accidentaccio. Pensavo proprio quello che poi alla fine hai detto tu, che un appassionato di radio, un amante della tecnica, della tecnologia applicata in questi apparati, dei quali ne ha fatto un hobby, e gli hobby spesso si curano con maggiore attenzione del lavoro principale, che fa uno accidenti a sentire che per far prendere una vite gli ha messo lo spessorino della guaina esterna di copertura di un filo elettrico, e su Maria, cavolo, all'interno allora che cosa possono esserci? Mi aspetto che ci possano essere anche ulteriori stranezze. No, in quel comportamento lì non ho ringrazio totale, perché ti ripeto, ribadisco che le vitti di quelle radio le vendono dappertutto. Io mi avevo preso una bustina intera, ce ne saranno un centinaio, dove, come vedo le mie radio, che magari vedo qualche vittina, che sai, con cacciavi te stesso, a forza di aprirla, di fare qui e là. Io ad esempio l'ultima che ho fatto di Antonio, le vitti le ho messe nuove, forse non se ne è neanche accorto, ma se va a vedere il secondo 140 mi ha portato, sono le vitti nuove. Perché ho visto c'era anche con una spanata, insomma, che non era in condizioni buone, le ho messe nuove. Anche quella di Gian Paolo, il 70, le ho messo tutte le viti nuove. Capito? Ma si fa anche per estetica, per bellezza, poi io sono abituato a farle così le cose. Perciò tu a me non mi puoi dare una radio che già sai di avere un difetto. Cazzo, in più mi metti anziché una vite nuova, se la stacchi dalla tua radio non me ne frega niente, ma per fare bella figura si fa di tutto di più, mi metti un pezzo di gomma e me la mandi così, invece di comprare le stecche così chiamate della maniglia in gomma, che sono magari rovinate, per far vedere che sono lucide, le togli la cromatura, le passi all'acciaio, le fai diventare ruvide, quindi va via la cromatura e si vede questo lucido da schifo, quando quelle due placche costano 10 euro le metti nuove sempre per fare bella figura. Quindi secondo me non è l'altezza di una persona che tiene molto bene la radio come le tengo io, perché domanda, secondo te è opportuno, è consigliabile comunque dotarmi di qualche parte di ricambio o comunque qualche cosa che riguarda la radio, proprio nell'eventualità che un domani possa cambiare, sostituire qualcosina che si trova ancora oggi? Beh, io direi di sì, io ce le doppie, come ricambio, sempre, per 440 ho un po' di pezzi da parte, potenziometri, manivietta, tutta la parte dissipatore, display, VFO, ho l'accordatore, ho un sacco di pezzi da 440, da 140 addirittura ne ho uno proprio a pezzi di ricambio, dal 430 no, perché quello che ho non è mio, è di Antonio, un amico che lo sta prendendo anche lui a pezzi di ricambio, ho un sacco di agganci, però nessuno me lo vuole pagare come dico io, allora rimane lì. Però dagli altri radio ho sempre dei pezzi di ricambio, perché conviene tenerli, capito? Tenerli anche perché la Kenwood ha fallito. Per poter avere un riscontro effettivo deve mandarla a Bianconi, e Bianconi non scherza, Bianconi lavora a 22 ore l'ora, e quando non c'è da lavorare sulla radio, invece lavora giorno e notte, sono da lui. Accidenti, ma Bianconi dov'è? Fuori? Fuori, a Bologna, io ho mandato 440 di Tino Muscolo, che ha preso una batturata di quelle enormi di corrente, un fulmine, e quindi prima l'ho fatto il check-up io qua a casa, ho scritto tutto quello che c'era da sostituire e poi l'ho mandato a lui per farmi tutta la messa a punto, cambiarmi tutti i componenti, farmi tutto l'allineamento nuovo, il set e soprattutto tutta la configurazione, perché non ho per cambiare schede, va configurata la radio altrimenti non trasmette, e per fare la configurazione ci vogliono degli strumenti che io non ho, quindi ho voluto mandare a lui, e il preventivo siamo intorno ai 250 euro e non si scherza. Accidenti, cioè, si corre il rischio che il costo della manutenzione, dell'eventuale riparazione, si va a mangiare completamente il costo del valore commerciale dell'apparecchio. Una cosa effettiva, no? Io ho un 140 che l'ho comprato nuovo nel 1998, nuovo. Purtroppo mi è capitato una distrazione qualche anno fa, dove io di solito quando mi stacco dalle radio lascio tutto acceso, anche se sono mai nel salone, un colpo di sonno, mi sono dormito e ho lasciato l'unica radio accesa, era quella perché stavo come adesso c'ho solo 440 acceso, tutte le altre sono spente, no? Così ho fatto il giorno, sono andato a dormire, tanto l'ora la notte, allucinante, mi sa gira, vetti le gira, ma c'è la sirena qui o fuori? Aspetta un attimo. Su quella radio l'antenna totale sceso niente, zitta, non mi risposto, zitta, butta, bruciato il finale di ricezione, uno sbalzo di tensione. L'ho fatto una terra apposta, mi è costata 250 euro, quindi 3 più 2 fanno 550, cosa devo andare a vendere? Ecco perché ce l'ho sempre qua, me la uso. Sai quante richieste ho avuto di miradi, non lo posso fare perché vado a rimettersi 250 euro, allora dico no, non ne ho, però ce l'ho, ma non la posso vendere, perché se la vendo 300 euro ce ne ho rimesso 250, non la posso vendere 550 perché il valore non è esattamente quello, per non fare figure brutte nei confronti di persone che conosco, o preferisco tenerla, e quindi me l'ho aggiustata e me la tengo. Registrato il break. Sì, sì, chiaramente, chiaro. Veramente se la dai ci vai sotto. Darla a prezzo intero ovviamente non è una cosa che fa torcere il naso, per cui peccato, che scherzo. Ok, buonasera, salutoni, avanti il break. Ciao Salvatore, ciao Claudio, ben sentiti. Da questa parte Fabrizio che sto rientrando, dai, avanti Claudio. Ciao Fabrizio, ma ti ha telefonato Antonio? Sì, l'ho sentito, mi ha detto qualcosa, mi stava accennando qualcosa, mi ha dato un'occhiatina, poi se il tipo è disposto a riprenderla, quindi non c'è problema, mi ha dato un'occhiatina. Quello di 10 watt l'ha fatto su altre radio, potrebbe essere anche un connettorino, doveva dare un'occhiata, fare quei quattro controlli senza stare a prendere troppo tempo, se una fesseria bene, se no gli si rimane indietro. Fabio, la prima cosa che devi fare secondo me è assicurarti che il finale sia il suo, perché il fatto che la radio trasmette a 10 watt in FM, a 10 watt in SSD e a 10 watt in AM, secondo me c'è qualche problema di fondo molto più serio di quanto sembra, perché se una radio ha un problema, come dici tu, di fesserie, allora la fesseria, siccome sai benissimo che è tutto separato, in AM nella 10 watt, vabbè, vedo un po' di fare qualcosa. Però il fatto è che la radio rimane fissa a 10 watt in banda laterale su tutte le frequenze e su tutte le bande, quindi secondo me c'è qualcosa sullo stadio finale, quindi vai a controllare subito quello, perché se il finale non è il suo, è utile che state lì a manovrare, si impacchetta e si manda via. Se il finale invece è il suo, vai a controllarti tutta la parte dell'alimentazione, però se ci sia qualche problema, però secondo me c'è un problema di fondo abbastanza, perché è un peccato, come modulazione molto bella, come ricevitore molto buono, però c'è il fatto che da 10 watt, tra l'altro, da tutti i picchi negativi, quindi 10 watt il picco negativo è un assurdo. E quindi purtroppo ci sono degli effetti che ormai sono quasi congeniti di quella radio. Dopo un certo tempo io ho fatto i lavori principali sulla mia radio, li ho fatti, ho cambiato un paio di, sulla piazza di diodi, un po' di diodi, perché ti ricordi che erano pure fatti, anzi addirittura davo i puntini di quanto erano in dispersione, ma è una cosa normale, tanto che ora va bene. E quindi quattro diodi, ne ho cambiate anche due in più sulle bande di sopra, non c'era bisogno, ma è una cosa normale, capito? Sì Fabri, poi ti ripasso il microfono. Sì Fabri, ma i difetti del 440 non fanno parte dello stadio finale. Io ti ripeto, 20 anni che uso il 440 e difetti sullo stadio finale non ne ho mai avuto, a meno che non vada proprio a farsi fottere, che quindi si bruci il finale o il prefinale. Difetti del 440 li conosci meglio di me, quindi tutta la parte del PLL, del pressione che vanno sempre seguiti e controllati, ma il fatto che quella radio non abbia più di 10 watt è un problema nuovo per me, nuovo nel senso che non mi è mai capitato, a meno che, ripeto, ribadisco, non ci sia lo stadio finale bruciato, allora stai lavorando col prefinale che dà proprio 10 watt e quindi non si muove da lì, capito? Come ho detto, vai direttamente a controllare lo stadio finale, perché quella radio ha altri difetti, non ne ha, ha un'ottima ricezione, un'ottima trasmissione, l'unico problema sono i watt. In watt che stanno lavorando a 10 watt, quindi con un finale di un baracchino, per capirci, capito? Perché io i problemi del 440 li conosco benissimo come te, li ho vissuti forse prima di te, quindi so perfettamente quali sono i difetti, e sono quelli che conosci tu, PLL, VCO, selettori, preselettori e commutazioni di banda, quindi sono le cose principali che vanno a farsi fottere. Capito, ma il fatto che quella radio abbia 10 watt mi sembra una cosa molto molto difficile insomma da contestare come problema base di misura, non sono d'accordo. Avanti Antonio. Allora, una cosa che non so se può essere indicativa, nel senso che lo slide della potenza star, chiamiamolo così, lo chiamo slide riferito al 140, non è che dà subito 10 watt e dopodiché gira a vuoto fino alla fine, ma bensì raggiunge 10 watt mettendolo, cioè piano piano come se lo stai girando fino al massimo della forza dove arriva a 10 watt. Ma quello è normale, il 440 la potenza massima da un quarto di giro di quella di giro, quindi quello non è un grosso problema. Però detto, potrebbe essere qualcosa di più serioso, oppure quello che ti dicevo, io avevo detto qualcosa oggi quando me l'hai detto, ho detto ok, ero lì a lavoro, quindi mi ho fatto un paio di ore, ho fatto una ricerca su internet e ho ritrovato quei forum dove proprio parlava che anche lui aveva problemi di 10 watt ed era un problema di invecchiamento di radio, praticamente era un connettorino che c'era un contatto freddo e ha messo a posto lì e ha ripreso, però voglio dire, sono di quelle cose dare un'occhiatina veloce, soprattutto se la radio ti la mandi e ti restituisci i soldi, e quello che non fai mica martellarti la testa, ti dai un controllino, quelle quattro cose che potrebbero essere e via, capito tanto? Oh, infatti questa qua è l'idea. L'unica cosa secondo me c'è la possibilità, e questo non è che vuole scagionarlo, perché poi lui nel momento in cui fa delle dichiarazioni su eBay, cioè dici perfetta, vabbè ci vede che ho un feedback basso, nel senso 25 vendite ha fatto, però come diceva Claudio ha venduto cose anche importanti di un certo prezzo e ha avuto dei feedback positivi. Non lo voglio scagionare, però realmente lui si è lanciato a dire che era perfetta. Perfetta non è perché è arrivata con la saponetta che, come dicevo, manca un pezzo, manca l'aggancio di dietro. E già quello quando me l'ho dato all'altro ho detto, gonfia la cosa. Come poi l'ho scartata bene la radio, realmente si vede che ha cercato di rabberciare facendo degli aggiustaggi un po' grossolani quello che è l'aspetto estetico. E già quello mi ha lasciato così. Le vittime anticate non sono un bel vedere. Un'altra cosa che mi ha fatto capire che è queste sfiammatine che ci sono all'interno. È possibile anche che come l'hanno sbattuta la radio, per quanto spacco, per quanto impallato all'esterno, internamente non è impallato, quindi una scheda, se prende il colpo il pacco, la scheda si distacca, un contatto può anche saltare, capito? Quindi è da vedere come hai detto tu. Guarda, io quella della schiamattina che mi ci bisognerebbe vedere, caso come c'è la polizia, si sa che non giri, che mi ha messo il microfono in mano. Allora, io credo che praticamente se puoi avere qualche schiamattina, infatti ti ho detto un'altra cosa, quando vai in trasmissione un altro problemino che fa è mettere la mano lì proprio sullo stadio finale dove c'è l'antenna e vedere un attimino se c'è qualche componente che scalda, alle volte fa anche quello, quindi se c'è qua la mattina, potrebbe essere che è successo una cosa del genere. Infatti proprio lì, sullo stadio finale, la parte in fondo, e lì magari abbia sfiammato qualcosa, e quindi c'è qualcosa che si è andata a buttare, magari è una semplice resistenza, poi bisognerebbe vedere così, fare due controllini, comunque non è un grosso problema, capito? Si dà un controllino, si usi veloce, se no poi gliela rispedisci e faccia, no? Dimmi, hai detto tu poco fa, il car sale, se il tuo fa così vuol dire anche il tuo è stato modificato, perché la mia radio è nuova, nuova di pacca, questa l'ho comprata adesso, e praticamente il carrier, quando io, perché ho tagliato il diodo io per fare la sintonia continua, la potenza da 50 watt l'ho portata a 100 io, è davvero, proprio davvero, a salire a 50 watt arriva più o meno sul 3-4, sul 3-4 del carrier, poi a metà, perché è quasi a metà, diciamola, è quasi a metà, quindi quasi a 5, per i 50 watt, per gli altri 50 watt arriva a 10, quindi il carrier è giusto, non è come hai detto tu. Praticamente no, ma stavo leggendo anche io questa storia qua, tutti quanti infatti parlano di questo sul Kenwood, quando parlano di questa modifica dicono del diodo 49, l'unica cosa che ha un sul car, il 4, infatti intorno ai 4, 4 e 5 è il massimo della potenza, e c'è anche un collega, lo stesso gli fa così, se vai a leggere su internet hanno tutti questa maniera gli funziona, per te è il primo che sento che funziona così, anche più, è più discreto se riuscissi a sfruttarlo tutto, ma è solo leggi ti fanno tutti di un quarto praticamente, a 4 che è già il massimo della potenza, un po' come il Mickey Game che si è notato, sa che è molto sensibile, a 1 per mezzo, a 1 sta già uscendo ed è al massimo, se no poi inizia a strappare. Ma io ce l'ho tutte e due, quindi sia il 4.40 che il 4.30. A 5 di carrier è 50 watt, a 10 di carrier è 100 watt, io non lo faccio mai salire a 100 di portante fissa, quindi lo tengo sempre a metà, però il carrier del 440 e del 430 mio sono precisi alla lira, a metà 50, a 10 100, sia uno che l'altro, tutti e due precisi, mentre il Mickey Game è un fatto normale, perché il Mickey Game è troppo esagerato, ha la scala da 1 a 10 per usarlo senza il processore, invece col processore la scala è da 0 a 1, massimo 2, ma è difficile che arrivi a 2, io adesso ce l'ho a 1, poco più di 1, è già la modulazione è abbastanza alta, abbastanza forte, perché mi ascolto in cuffia. Vabbè, comunque tu vedi un pochino quale può essere il problema. Per me è problemi di Dio, di condensatori, di resistenze, non ha niente quella data, assolutamente niente, perché è un problema di finale, per me è un problema di finale, a meno che non ci sia completamente il trimmer del carrier interno, che è quello proprio che poi vai a fare regolazioni, che faccio io, insomma, che anche sul 140 eccetera, che sia completamente chiuso, che lui l'abbia chiuso, non so perché, o che qualcuno mentre ha fatto qualche allineamento l'ha chiuso a 10 watt, può darsi pure, quindi a tu, può darsi che abbi culo, che quindi la radio non abbia niente, che ci sia il carrier chiuso all'interno, quindi apprendo quello, ti fa la regolazione esterna, il problema è risolto. Spero per te, diversamente fai l'operazione che devi fare. Fa così, quel ritmo per me, se mi trattenete abbastanza, rispondo all'altro cucchiaio. Perché ogni 5 anni, 5 anni delle, ogni 5 anni un 440 non si può allineare perché non serve assolutamente a niente. Ogni 2 anni va cambiata la batteria e basta, della memoria e boh, ogni 2 anni. Poi gli allineamenti vanno fatti in base all'usura della radio stessa, perché pochi allineamenti ci sono da fare perché c'è da cambiare tutta la parte che conosciamo. Sempre quello è il problema. Lui lui può darsi anche che mi stia sbagliando, quella radio sta lavorando solo esclusivamente col prefinale. Mandarli là dietro. saluti a tutti, buonanotte, ci riascoltiamo domani. Io domani c'è una giornata un po' disastrosa, quindi vado a nanna, che è già mezzanotte. Ciao Salvatore, Fabrizio, Antonio, Luca e chiunque altro fosse in ascolto. Buonanotte a tutti, a domani, ciao ciao. E Claudio, ci sentiamo domani, dai. Io rilancio a Salvatore che farà girare per Antonio. Ciao, ciao Cla, buon tutto, buon tutto, buon trapacco per domani. Se ne approfitto e volevo vedere io con questa storia del carrier. No, io non arrivo neanche a 4. Vedi? Io non arrivo neanche a 4. Io arrivo a e mezzo. Sì, 3 e mezzo. Ok, Antonio, riprendi. Non bene anche 3 e mezzo, sotto il mio è sui 4 e mezzo, ma è questione di letteratura tra l'interno e l'esterno, niente di particolare, quindi va bene anche così. Ciao, buonanotte, le 9 saluti, a domani. Antonio è passato in QRX, mi ha detto mentre parlava Fabrizio che si spostava di QTH. Ok, bene, un saluto a tutti, buonanotte. E ok, buonanotte, poi se rientra una cosa che non ha fatto, che non ha fatto, infatti gli ha detto, ma hai provato a resettarla, la prima cosa che devi fare è resettarla, capito? E invece no, non l'ho resettata, quella è la prima cosa che si fa, e poi procedi per il resto. Fabri, ma c'è anche scritto lo stadio finale del reset fuori, eh. Il reset è della parte processori, relay, oscillatori eccetera, la parte finale è sempre quella che è al di fuori di tutto, quindi ecco perché mi sorge il dubbio che sia il finale o il prefinale. Sì, ma sono d'accordo, però vuol dire, la prima cosa che fai per non sapere le leggi di scrivere, quando queste radio danno un problemino, la prima cosa che fai è il reset e poi fai tutti i controlli, no? E parti dalla radio vergine. Vabbè, sono d'accordo con te, ma vergine parliamo della parte elettronica, che è quella, quindi VCO, PLL, memorie e così via, ma la parte finale per me non ha niente a che fare con l'RST. Io quando faccio il RST su queste radio le faccio per alterare le memorie, per darle una maggiore sensibilità se devo fare qualche lavoro, ma lo stadio finale è stadio finale, completamente al di fuori da tutte le schede, si tratta solo di vedere se è quello o meno. Comunque, vedete voi, resettate, fate e poi fatemi sapere. Ci sentiamo domani, Fabri, buonanotte. Ciao, buonanotte nuovamente e buon trapacco per domani, dai. Avanti, Salvatore. Ma eccomi. Stavo facendogli fare un giro dei vari relè mentre che stavate salutandovi. Dove c'è questa radio che ti è arrivata? L'hai provata un po' da tutte le parti? A dirti la verità, da tutte le parti no, perché la mia antenna è proprio sorda sotto i 26, quindi ho avuto modo di fare un giro così, però è parecchio sorda. Ma hai provato da 30 kHz in su, se va in ricezione più o meno? Ricezione sì, però con il problema dell'antenna, che ho letto che questa mia gain master tende ad essere particolarmente sorda per tutte quante le altre frequenze, quindi non mi sono avventurato più di tanto. Sì, ho sentito qualche trasmissione, però già non sapendo se l'apparato antenna va bene ed è coerente con le frequenze che sto andando a sentire, non mi sono soffermato più di tanto. Ho fatto le prove con Claudio per vedere se le varie funzioni erano a posto, e adesso stavo facendo la scansione nei due VFO facendo muovere tutti i relè delle varie frequenze per metterli in movimento. Ho capito. Quanti watt sta installando lei in AM? In AM, ad esempio, in questo momento ha portante muta 10, poi ho visto che con il carrier, in questo momento che l'ho sollevato e sono a 3, sono a 80, quindi a 3 sono a 80, così portante muta 100 e non sono arrivato a 4. Vabbè, vuol dire che il massimo, diciamo, 100 watt già va bene, allora già sta andando bene, se aveva voglia. Sì, no, ma già io sono, diciamo, contento del fatto che, insomma, io non compro mai né su eBay, né sui siti, eccetera, eccetera. Ho sempre cercato di prendere i prodotti nuovi, perché sono sempre molto diffidente, molto, molto, molto. Quindi ero già terrorizzato dal fatto di essermi avventurato nel fare questo acquisto e ho cercato di prendere tutte le precauzioni possibili e devo dire che sono andato, ecco, ho avuto fortuna perché la persona al quale l'ho presa, che è un tizio, un vecchio radioamatore di La Spezia, e stavano dismettendo tutte quante le trasmittenti che avevano su una barca nella quale tenevano questo 440 come unità di backup, quindi nel caso le radio principali fossero state funzionanti nel momento del bisogno, ecco. E quindi poi parlandoci per telefono, gli scambi di mail, eccetera, eccetera, mi sono fidato e ho preso e mi è andata bene. Non è fatto bene, io già mi azzardo molto, io faccio tutto quindi tramite la rete, quindi non c'è problema. Dai, ascolta, in banda laterale come sei? Il carro è regolabile oppure devi giocare col Mickey Gain? Mi sembra che sia regolabile, mi sembra, però potrei dire una sciocchezza, dovrei verificare. Allora, guarda, provino, magari se vai in banda laterale, sì, lasci il microfono come lo stai usando adesso, dopo metti il... aspetta, la polizia gli sta stando veloce, però aspetta, riprendo dopo là. Ehi, capo, con tranquillità, aspetta che mi chiami tu. Dolce, qua sono passati con rosso, ho visto dove stanno andando. Dicevo, tu vai in banda laterale un attimino, poi col microfono, con lo stesso volume, con la stessa regolazione che c'è adesso, inizi a modulare, lo metti a 1 e fai ora, ora, e vedi un attimino a quanto sa, lo metti in PVR se non sbaglio, lo metti in PVR e vedi quanto sta salendo, poi lo tiri un po' su e fai ora, ora, e lui deve salire di watt, se non sale di watt sino che puoi salire sino a 100 watt, capito, al massimo della potenza, se non sale vuol dire che non c'ha la modifica. Aspetta che ci provo. E lui dirà, in eccezione dovrebbe dare il massimo della potenza solamente, direttamente. Vicino a un connettore al centro, lo tagli una tronchesina e lui va, ti fa la regolazione con FNA e mette la fare SSB, capito? Ah, ho capito, perché se no, quindi in SSB comunque lui spara il massimo. Sì, no, ma non spara il massimo, per sparare il massimo devi fare il gioco, mi sembra se lì c'è scritto anche le istruzioni, devi fare il giochetto tra Mickey Gain e Scarno, trovi il giusto compromesso, tu muovi, ti vedrai che lui ti dà il massimo della potenza a una certa regolazione, no? Un po' come fai con l'accordatura. Infatti lui spara direttamente il massimo della potenza, se invece tu fai questa modifica, se ti vedi la palla, o un giorno che sono in giro ma vicino da te, te la faccio a casa, più che vicino a casa mia, e te la faccio, è una cosa semplicissima, non sto nemmeno a smontarti la scheda, di saldarti e toglierti il dio, l'ho capito, si può anche fare così, ma si fa prima come fanno tutti, cioè il dio lo fai, tac, lo tagli, lo sposti e via. Un domani, se teoricamente la vuoi mettere a posto, lo riavvicini, un puntino di saldatura e lì torna a posto. Però quelle sono le modifiche che il 99,9 di queste radio hanno. Capito, chissà perché l'hanno fatto uscire direttamente con così. Non lo so, perché per esempio l'8.50 ce l'ha già, dico, non lo so il motivo. E questo l'ha trovato un... era uno dei problemi di questa radio e poi gira e c'è la modifica, capito? Mi sembra che la Kenwood la faceva. Capito. Invece stavo leggendo con interesse la modifica per avere il Roger Beep utilizzando il segnale delle CW. Ho visto qualcosa, ma non mi è venuto, io ho letto qualcosa, proprio ci stavo leggendo qualcosa di fare, ma non so nemmeno, dovrei leggere la scheda e intervenirci. Però un'altra cosa che tu puoi fare, su quella radio sono convinto, ma sei sicuro che quella va in continuo? In continuo, cioè in sintonia continua? In ricezione sicuramente ci va, giusto? Sì. E fuori dalle bande radioamatoriali trasmette? Ma guarda, poc'anzi abbiamo fatto un giro per provare in FM ed eravamo 26.2 e 75. Poi è chiaro che non avendo antenna non mi azzardo a premere portante in frequenze molto più basse fuori dal range dell'antenna. No, allora non succede niente, se tu vai che adesso la frequenza fuori bande radioamatoriali che è 5 MHz, 4 MHz e mezzo, 5 MHz, gli dai un colpo di portante e vedi se ti dà il punto rosso e vedi un attimino, vai in accordatura, perché poi se tu scendi sotto l'1.6 lei non va in trasmissione perché non è fatta per trasmettere, però sopra di lì, cioè, lì vengono messe un paio di diodi, lo stesso, due modifiche, e va in continuo, ma sono già tutte modificate, però io ho l'impressione che quella ci sia stato fatto ben poco, perché è una radio che stava così di backup e quindi non veniva utilizzata. Sì, la sensazione è che non sia stata smanettata, credo che sia stata semplicemente aperta per fare i controlli di routine, per avere la certezza che in questa barca dove la utilizzavano tutto procedesse regolarmente, che era una barca di circa 30 metri e quindi chiaramente trovandosi in mezzo al mare, insomma, volevano avere la certezza di poter comunicare in caso di problemi. Ho capito. No, voglio vedere anche comunque su quella radio lì, è quello che dice oggi, queste tutte queste radio qua hanno problemi di vecchiaia, quando la prendi, anche se lei va bene, bisogna fare subito un paio di controlli. La prima cosa è vedere un attimino i VCO, adesso per esempio a te ti sta andando bene, per carità, però vedere se la colla è conduttiva o non è conduttiva, se è nera o non è nera, per dargli un'occhiata, perché quella corrode dopo, capito? Quindi vedere un attimino com'è, se è tutto a posto bene, se non è a posto bisognerebbe forse forse decidere o aspettare che ti faccia il fattaccio, oppure decidere di pulire tutta quella colla e di ricostruire il WCO, capito? Sono cose normali di quelle radio, non bisogna spaventarsi né niente, è una cosa normale, capito? Come uno invecchia e a 90, 100 anni dopo muore, cos'è quella radio uguale? Non ho capito, Fabri. Tra l'altro penso ad esempio che, vedi, la batteria non sia mai stata sostituita. La batteria non lo so, però te cosa te ne frega della batteria? La batteria se tiene, finché tiene le memorie, gli non avrà problemi, perché devi smontare il coperchio sotto il display, lì c'è un altro coperchietto, bisogna smantellare lì, c'è la batteria e si cambia. Però quella è una fesseria, il giorno che dà problemi si cambia. Invece io quello che avrei controllato sono i WCO, capito? I WCO li avrei controllati per vedere se la colla era conduttiva, tutti gli oscillatori, ci sono 5 oscillatori e sono messi all'interno di uno sulla scheda RF e l'altro sulla scheda PLL e sono uno all'interno di una scatoletta, ce ne sono 4 e mentre nella scheda RF ce ne sono 1 e lì bisognerebbe controllare come la colla. Quindi aprirli è... però è una cosa che è visibile proprio in termini di visibilità a causa di cambiamenti di colore e quant'altro, o bisogna fare proprio delle verifiche con apparecchiatura? No, non vedi subito se la colla è conduttiva lì, nei WCO, io per esempio le mie erano state rifatte, l'altro giorno gli avevo messo, c'era anche la cera nuova, io gliel'ho tolta completamente perché volevo fare una prova, sarebbe da rimettere, però non gli fa niente, diciamo che quelli vengono messi quando vengono trasportati, siccome sono degli apparecchi portatili, quando vengono trasportati nelle macchine in giro, allora possono prendere vibrazioni, ovviamente vengono tutti i WCO e tutti gli apparecchi sono praticamente cerati, incollati, per non far muovere la componentistica, che è importante. Mentre negli apparecchi così dai, da tavolo, quindi io quello utilizzo lì, non c'è nessun problema, quindi non c'è bisogno nemmeno di rimetterla, infatti con il modifico rimetti la cera, oppure addirittura anche con la colla a caldo, qualcuno metteva eccetera eccetera, quindi non è un problema, sarebbe anche curioso sapere controllare per vedere se, in che condizioni è dentro la radio, capito? È stata aperta, questo è fuori dubbio, perché si vede anche dalle sboccolature nella croce delle viti. Si vede che ci sono, che è stata evidentemente aperta. D'altronde lui mi aveva detto proprio questo, che veniva controllata regolarmente e quindi fate le dovute pulizie. Dopodiché può anche darsi che dentro sia casomai super impolverata o piena di prughere che sarebbe meglio togliere. Certo, non avendola mai aperta, così come è arrivata, ha fatto praticamente un metro, l'ho poggiata su un tavolino e da lì non si è più mossa. Ho capito, dai. Comunque quando vuoi me lo dici. Un giorno che sei libero, ti avvicini a casa, la mettiamo un attimo sul tavolo, gli togliamo i coperchi, la sbirciamo dentro, vediamo un attimino i WCO, vediamo, come vi ho detto lo stesso Antonio, vediamo un attimino se hanno cambiato qualche diodo per vedere se la piastra di scambio, no? che quelli sono normali che succeda, per vedere un attimino cosa gli è stato fatto, tutta roba che se l'hanno fatto è meglio che se l'abbiamo fatta via alla fine, e via, a prescindere che la radio va bene, capito? Senza stare a fare nessun altro controllo di tarac, niente, solo giusto visivamente vedere all'interno cosa gli è stato fatto. Perfetto, ti ringrazio sin adesso, Fabri. Ok, beh, io, Fabri, siccome domani ho anche il rientro, quindi sarò mattina e sera in ufficio, ti saluto. Tu sei arrivato? Sì, io sono sotto casa, adesso spengo tutto e salgo su e vado su. È strano che non è rientrato nemmeno Antonio, tu stava al QTA, adesso chiudo, ho trovato un... perché oggi poi me lo lascio in macchina, un assegno circolare grosso, ce l'avevo 2 giorni che ho buttato nel cassettino della macchina, ma dimmi tu che... Guardi, lo pensa uno e dice cavolo, uno che è arrivato l'anticipato. No, già è circolare, non trasferibile, però è grosso un bel pure, non poco, è trasferibile, già ho buttato, adesso non ho aperto il baracchino, me ne è sceso per terra, ho fatto cazzo, e poi magari andavo a cercarlo, capito? Devo partire fuori venerdì e mi serve. Che bettina, vaggi un capo, guardi, me lo dice sempre, mia madre me lo dice sempre, cacchio, c'è una testa che non vuole vista, capito? Mi dimentico le cose da un secondo all'altro. Beh, ti faccio risalire, dai, che tu hai finito finalmente anche tu la serata e la giornata lavorativa. Ok Fabri, ti ringrazio per come i consigli che mi hai dato. Ci sentiamo se coincide anche domani, i prossimi giorni. E ok, dai, ci sentiamo, buon trabacco e buon 144. Grazie Fabri, altrettanto. Ci sentiamo, ciao, arrivederci, buonanotte. Notte, ciao.